le discussioni su Amadeus, prossimo conduttore di Sanremo, no, se ne parla sessista come o no, sei tu che vivi fuori nel dal mondo. Paese reale se ne parla. Non no, si parla di questo. Se tu mi chiedi sulla riforma della legge elettorale e il ruolo della consulta, che ti fare... dico che hai sai... ragione. Lo sai ma che di voglio Sanremo fare... invece ti sbagli allora, di grosso, adesso, ragazzi... perché ne parlano tutti. Sì, sì, tutti sì, va bene, adesso facciamo un esperimento. No, facciamo ma su questo ti sbagli. Va bene, l'hai detto già tre volte, aspetta. Parli della Corte Costituzionale. No, lo posso capire, argomento un po' ostico. Posso capire un po' ostico, ma in realtà di grandissimo interesse, di grandissimo impatto, eccetera. Ma Sanremo, virgola, amico caro, okay, virgola, una cosa che guarda il 41% degli italiani. No, 41% di chi guarda la televisione, di chi guarda la televisione. Quello è la Bibbia, naturalmente, quello è tutto, naturalmente. Dai! Però, però di voglio chi fare la televisione! Lo share! Ma sei pazzo! Dai! Hai attaccato lo share è la vita, naturalmente, lo share è come dare il biberon a un neonato, naturalmente, è il neonato che naturalmente si attacca alla mammella della mamma, naturalmente, e succhia, naturalmente, questo latte, naturalmente, questo mosto meraviglioso che gli dà la vita, dai! E lui dice soltanto lo share, ma sei pazzo sei! E naturalmente come dare da bere a un assetato in Africa, naturalmente. Quando, lo share è questa cosa qui, quando tu ho capito, però, un bambino dell'Africa che naturalmente la gente chiede non è di mangiare, chiede di bere, naturalmente tu gli dai un goccio d'acqua, per lui è vita. E dai! E quello è lo share! L'audito, l'ascolto! Grazie, grazie, Frecciaro che si intromette sempre. Però volevo dire una cosa seria. Naturalmente è come dare una bomba, naturalmente, all'Iran, naturalmente, come se tu regalassi alla Ayatollah Khamenei, naturalmente, una bomba, quello dai, è uguale, no, dai, è vinto, share, dai. Okay. Allora, volevo dire, grazie ancora, Frecciaro, volevo dire una cosa, che se tu, voglio fare un esperimento. È come dare, naturalmente, ad un disabile, naturalmente, una stampella, naturalmente, cioè, capito, è vita, ma che c'entra lo share, dai, che... lo share, la vinta, soltanto lo share, dai. Io capisco che lei è ossessionato lo share anche a 70 anni, però, insomma, io voglio capire una cosa, ragazzi, sono sicuro, voglio fare un esperimento. E chiamo quattro bar qualsiasi, sì, quattro sì, bar chiama, chiama, in varie parti d'Italia. Sì, lei ha bar, quello che ha aperto. Cosa ha capito della polemica di Sanremo? Cioè, lei sa che cosa ha detto Amadeus l'altro giorno sulle donne? Voglio, e cosa ha detto secondo la Corte Costituzionale quanto, sul referendum no, lascia della Lega? Facciamo ti due giuro, quesiti quattro insieme. Bar a caso, quattro sì, bar a va caso bene, va bene, e va sono bene. Sicuro, e sono sicuro, lascia perdere la Corte Costituzionale, sono sicuro che nessuno, magari sanno che Amadeus condurrà Sanremo, ma nessuno è a conoscenza di questa ridicola, assurda, folle polemica sul sessismo di Amadeus, che io difendo chiama, a spada tratta. Chiama, tu per forza, a difendi qualunque cosa. Tu abbiamo a sentito tratta le frasi. Ora, qual è il problema? L'abbiamo parola, già detto ieri sera. Qual la è il problema? La parola di un ricorrente è bellissima. Non sbaglio cosa dire di e su allora, queste 10. Perché non si può dire che una donna è bella? Non si può dire che è bellissima, è ma sessismo. Sì, dai, è sessismo dire che una donna è bellissima. Perché era semplicemente imbarazzante tutto il contesto. Adesso non è quello. Ma chi se ne frega? Imbarazzante ma... tutto. Cioè, ma quella è bellissima. Dell'altra, quella della fidanzata anni, è bella ancora. Mi fai risentire la cosa della fidanzata di Valentino Rossi, per favore? L'audio sulla fidanzata di Valentino Rossi. Incredibile. No, ma fammi sentire, questo è stato accusato. Ma vi faremo certo, sentire gli audio. Uno scivolone pazzesco. Una cosa sessista, dai, la donna dietro l'uomo, la donna che. Ma scivolone di che cosa? Ha detto ma che lei. Ma invitate Margherita Hack, no? Purtroppo è morta, poverina. Ma invitate una Margherita Hack, una super è scienziata. Morta. Ma dico, faccio per dire, no? Mettete Piero Angela, no? Scusi, dici, Frecciaro, ma è morta Margherita. È morta. Dai, idee, manco le idee, dai. Ecco, Francesca, per esempio, è una. Come dire, una sorta di scommessa personale, perché a volte non per forza devi conoscere, ero curioso, questa ragazza molto bella, sappiamo ovviamente molto essere bella la fidanzata di un grande Valentino Rossi, ma sì, è stata scelta da me perché vedevo che intanto la bellezza, ma la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro. Che cazzo vuol dire che uno inviti uno per quello? Ma no, ma non è che devi che dire tutto dire? L'ha invitata perché è una gran figa. Ma che questo vuol è dire? Il punto. E poi anche perché dice ma lei non sapevano apprezzato... cosa dire. Non sapevano okay, cosa se ne frega, dire. Ma sarà un problema di definire Amadeus sessista che disprezza le donne. Ma non è sessista, gli è partita. Ma senti Michela Murgia, scivolata. Radio Capita questa mattina Michela Murgia, l'ottima Michela Murgia, senti grande scrittrice. Invitate la Murgia, ottima scrittrice la Murgia. Lasciamo perdere, non diciamo fa ascolto la Murgia. Fa ascolto, dai, invitate cantate Gavino Ledda. Amadeus dice stronzate, giustamente ce la prendiamo. Scusate, ma beh, no, ragazzi, brava, guardate che questo è un programma 17. Popolare, è un programma visto da milioni di persone. Tutto quello che tu dici lì fa una pedagogia popolare che vale più di qualunque discorso e di qualunque talk show. Pedagogia popolare, bravissima, certo. Pedagogia popolare. La frase chiave è pedagogia popolare. Ma che cazzo di riflettete, ma riflettete su questo. Ma non dite stronzate, un programma, ma da Sanremo non è mai uscito un cazzo, 41% dai, degli dell'Auditel, diciamo, è un programma che ha comunque a suo modo raggiunge milioni di persone, raggiunge milioni allora di persone. Che metti una donna lì, che cosa la gente cosa pensa? Messaggi che sta dietro valore, l'ombra di Valentino penso, Rossi, un valore dietro positivo le spalle di Valentino per le donne, Rossi, di emancipazione, magari eccetera, e non soltanto perché sono delle fighe, no? Far passare dei valori, che ci sono delle donne belle, intelligenti, che sanno magari anche scrivere, che si sono contraddistinte nel mondo della cultura, dell'arte. Mamma mia, che banalità, mamma mia, la banalità, una grande astrofisica invitate, no? Ma vai, invitate un grande scrittore, Gavino Ledda, Gavino Ledda. Ecco, il punto non è che sta un passo indietro, perché una nella coppia può stare dove vuole rispetto al suo uomo, se lo decide lei. Il problema è che lui l'ha scelta per quello, ma per la sua capacità di stare un passo indietro, oltre che per la bellezza, lui come se la bellezza fosse un titolo di merito. Bellissime, comunque ha detto, Sì, sì, ha detto, naturalmente sono tutte bellissime. Certo, è chiaro, no? Sul palco di Sanremo solo donne bellissime. Il criterio estetico è il criterio della minorità rispetto al maschio. Ma dov'è? Ma non ha detto che il criterio della scelta di tutte le donne è il fatto che siano minori rispetto al maschio? Quelle che ha scelto ma lui. Che cosa dice? Quelle che ha scelto lui. Ma è falso. L'ha detto lui. Lo ha detto ma di l'ha quella. Detto lui. Lo ha detto di quella, non di tutte le ma altre. Tra le l'unica parola che sapeva ripetere è bellissima. Basta, bellissima. Ragazzi, poi bellissima. Basta, passiamo ad altro, che ovviamente mi sono rotti i coglioni di Sanremo, di questa storia. Mi sono rotti i coglioni. La vogliamo dire o no che questa cosa è una porcata? Vogliamo continuare a darci la pacca sulla spalla e dire no, ma che sarà mai? Ma fatela una risata, ma perché te la devi pigliare con Amadeus? Me la piglio sì, perché questa roba qui vale come un master in sessismo. Senti ancora, poi la perla finale è questa. Mi sembra anche lui, senti molto la perla finale, bella, master determinata, in sessismo. Mi piace molto. Tu sei d'accordo con Murgia contro Amadeus, vergognati. Sì, iperbolica, senti. Iperbolica. No, ma senti questa cosa iperbolica, qua. Ti prego, senti quest'ultima cosa. Così. Senti quest'ultima follia, no? Questa è una follia pura, senti. Poi andatelo a dire perché le donne sono pagate meno, perché le donne vengono picchiate, perché le donne vengono uccise, perché continua a passare picchiate, l'immagine uccise. Che le donne valgano meno degli uomini e che gli unici loro titoli di valore pubblici sono siano la bellezza e il fatto di star per stare al canto a un uomo senza fargli ombra. Questo fa schifo. Amadeus, scusati. Allora, secondo la Murgia è un ragionamento accettabile. Il ragionamento che avrebbe fatto e non l'ha fatto Amadeus di scelta di questa ragazza porterebbe al fatto che le donne vengono pagate meno, vengono picchiate e vengono uccise. Vostro onore, non ho nulla da aggiungere rispetto a questa frase ridicola. Cruciani, tagliati i capelli che somigli a Dario Argento. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. E comunque, quando Cruciani storpia volontariamente il nome di Santuzzoli, come si chiama il leader delle sardine, mi fa letteralmente bagnare. Chi è questa, ragazzi? Chi è? Dove l'avete scovata questa qua? Dove l'avete tirata fuori? Da quali archivi l'avete tirata fuori? A proposito di Santuzzo, Sancazzo, Santuro, Santozzo, San Minchia, eccetera. Cioè il leader delle sardine, caro Parenzo. Poi torniamo sulla vicenda di Amadeus. Perché lo ridi sul cognome, sì, sempre? Perché non me lo ricordo. Posso dirti, non me lo ricordo. Non me lo Giordana, ricordo. Giordani. Se ho qualcosa da rimproverare a Giordano, probabilmente storpierei anche i nomi. Non c'è Mario problema. Giordana, non lo diresti allora, mai tu, ad esempio. Ma senti Mario la Giordana. Follia, senti Mario la Giordana, non diresti mai tu, Mario vorrebbe Giordana. Vorrebbe dare un DASPO per i social. Per i social. È stato preso per il culo da tutti. il DASPO per i social, la caro Santuzzo, San Minchia, è una come tesi popperiana, sai? Allora no, ma lascia perdere Popper. Sì, lo so benissimo, ma lascia perdere Karl Popper, sai chi è Karl Popper? Giù su Karl Popper, ti prego, Karl Popper non lo posso sopportare. Allora, perché non puoi sopportare Santuzzo? Santuzzo deve capire una cosa, che prima di fare le proposte, dato che non hanno proposte, si è inventato questa proposta di dare il DA, esso si è fissato con la violenza nei social, cosa? E non è il primo. Dunque trova qualcosa di originale, se vuoi faccio il tuo spin doctor, Santuzzo. Trova qualcosa di originale, perché in questo mi pare piuttosto incapace. Devi trovare qualcosa di originale, tira fuori, che ne so, la legalizzazione della prostituzione, oppure l'arresto dei clienti delle prostitute, che cazzo ne so. Trova un argomento originale rispetto a quello che già è stato detto. Il DASPO per chi usa i social e li usa male, secondo te, è una stronzata, è una puttanata. Già esiste peraltro, perché le piattaforme private spesso ti sospendono. Poi c'è il codice penale se diffami qualcuno. Dunque, di che parliamo, Santuzzo? Se io vado in un'arena pubblica sportiva che si chiama stadio, palazzetto dello sport, io vado in una manifestazione sportiva e il mio comportamento è tacciato o tacciabile di violenza o di creare problemi per l'incolumità delle persone, la sicurezza delle persone, come presentarmi con delle spranghe o fare cori offensivi. Perché non introduciamo un DASPO anche sui social network? Giusto. Ecco la puttanata. Ecco la puttanata. Bella ecco la puttanata. Ecco, ma non è provocazione, bella, è una puttanata. Bella. Giusto. Giusto. Roba da pazzi, è una riflessione importante. Poi dice la violenza verbale Karl come Popper scrisse un allora, saggio no, che si chiamava Cattiva maestra televisione. Santuzzo, la violenza verbale è come quella fisica. Cioè, secondo Santuzzo, bisognerebbe equiparare la violenza verbale a quella fisica. Ripeto ancora Santuzzo, San Minchia come si chiama. Amico mio, ci sono le leggi. Se tu diffami qualcuno, se gli dici stronzo, testa di cazzo, figlio di puttana, sei un pezzo di merda, e lui magari si sente offeso, vai dal giudice, a noi succede spesso, e il giudice ti dà torto, ti dà ragione. Ci sono le archiviazioni, eccetera. Dunque esiste già la legge, esiste la legge, il codice, capito? La violenza fisica, se tu dai uno schiaffo a qualcuno, è un po' diversa la cosa. Infatti sono punite maggiormente. Se vuoi un'altra lezione, ma io non sono in grado, puoi chiamare, che ne so, il professor Nordio o un'altra persona, ti può fare delle lezioni sulla differenza tra l'aggressione verbale e l'aggressione fisica. Ma tu vuoi fare questa proposta? Ti vuoi rendere ridicolo di fronte perché al mondo? Perché e allora renditi sono ridicolo ridicole? Perché sono ridicole. Perché gli ride dietro chi tutta gli ride Italia. Dietro? Tutta ma Italia vero, di fronte a queste proposte. C'è un pezzo d'Italia che si riconosce del movimento spontaneo delle sardine. Non è vero. Io sto parlando di un'altra non è assolutamente cosa. Vero. Sì, chi ride? Chi guarda Mario Giordano roba qua, ride probabilmente. Di questa roba sì? qua. Questa roba lì. Quando noi in piazza San Giovanni abbiamo detto la violenza verbale deve essere equiparata alla violenza fisica, tutti hanno detto esagitate. No, esagitate, no, invece, una puttanata. Il fatto che in questo momento Sergio sia stato contattato dalla prefettura di Ferrara, di San Pietro, e gli sia stato consigliato non andare in giro a fare il suo lavoro perché questo può avere un problema per la sua incolumità e che stanno ragionando sulla sicurezza della sua persona, è grave, perché vuol dire che quello che è stato detto su di lui, il modo con cui è stato pubblicato il suo video in cui si evidenzia il suo difetto linguistico, comunque la sua battuta. Sgarbi ieri sera un gigante assoluto contro sardine e sinistri vari durante Piazza Pulita. Quali sentitelo. Erano i beh, amico mio. Perché parli come Mario Giorgetti? Chi erano i sinistri vari? Sinistri vari, rappresentanti della sinistra. Sinistri al plurale, rappresentanti della sinistra. No, sinistri vari vuol dire gente sinistra, no, gente. Sinistri, gente della sinistra, uno mica si deve vergognare. Chi i sinistri vari? Non ti devi vergognare di essere di sinistra. Ma non ti devi vergognare di essere di sinistra. Ma chi sarebbero i sinistri vari? Sinistri, gente presente in studio di sinistra. Faccio parte del grande schieramento dei progressisti, che è una cosa diversa. E tra l'altro io l'odio contro Salvini l'ho sentito da loro, altro che l'odio di Salvini. E l'odio su di me, quando escono delle cose in cui se vogliamo vederti morto, appunto non lo fai mai vedere. Donnelly. Chiedi a Moretti cosa è uscito contro di me. Sentiamo. Quel ragazzo tra l'altro dice una frase molto bella subito dopo questo pezzo qui, cioè dice noi ci battiamo per una società in cui sia l'amore a vincere sull'odio, in cui i libri vincano sull'odio. E lui lo bullizza. Sono simpatica come a tanti, ma se tu vai a leggere bene c'è un unico obiettivo, l'odio per Salvini. mentre tu dici che non vuoi odiare, odi l'amore lui, per una società giusta. Lui l'ha chiamato razzista, antisemita, ma quale bullismo? Quello che stava dicendo quello era l'ennesima prova che anche lui era una sardina di sinistra, non ci sono di destra, benissimo. Allora andiamo a Raffaele dalla provincia di Brindisi, anzi Federica da Napoli, vai. Federica da Napoli, vai. Ciao Giuseppe, buonasera. Dimmi Federica, dimmi. Ciao, no vabbè, ho fatto questo intervento per quanto riguarda l'argomento di Amadeus di cui avete parlato prima. Sì. Semplicemente io da donna non mi sento offesa. Meno male. Perché credo sia stata una frase sì uscita un po' così con naturalezza, ma lui intendeva semplicemente dire che magari la fidanzata non sfrutta l'immagine del fidanzato. Ma sì, può darsi, infatti, può darsi, ma assolutamente, ma la cosa importante è che ci... No, ma Federica, hai perfettamente ragione, perché uno sembra c'è stata la ribellione delle donne. No! Sono quelle che parlano sui media, sessismo, le giornaliste. Benevolo, ma che Raffaele benevolo. Provincia di Brindisi, dai, Raffaele provincia sessismo di Brindisi. Sessismo benevolo. Ma quale sessismo? Non rompete i coglioni con queste stronzate, tu, dai, basta. Basta sessismo, stronzate. Amadeus sessista, ma di che parlate, dai, benevolo. Quale benevolo? Non dire... dimmi Cruciani, dimmi Raffaele, allora dimmi. Fino all'altro giorno quelli del bar non conoscevano sicuramente la questione di Amadeus, ma da ieri e oggi certo. Che l'avete aperto con in trasmissione, quei milioni di persone che ma mica per noi, ma chiunque che legge un giornale, che ascolta un telegiornale, c'è un milione di persone in più che sa di questa cosa. Lei ha detto difenda a spada tratta da Amadeus, ma tutta la vita, col pugnale alla schiena, però perché hai tutto questo ragionamento poi viene preso stranamente, perché siete un trascinatore, viene preso la trasmissione in prima serata, ma non è così. Raffaele, il punto è che stanno accusando questo signore che è un professionista, che è il presentatore di Sanremo, di avere dato un'immagine distorta delle donne. È una stronzata. È Gidio da Roma. Non c'è Francesco? Buonasera. Ah no, c'è. Senta, guarda, mi sento in dovere di far rilevare che avete parlato poc'anzi delle presentatrici di Sanremo, del Festival di Sanremo. Allora? Belle donne, tutte... Alcune belle, altre meno, ma insomma, ognuno poi giudica come vuole, non è che... Ma alcune... Le racchie dipende anche lì, perché alcune secondo te sono racchie, quelle che per te sono racchie per altre sono delle gran fighe, magari, mica ha detto. No, queste qui sono tutte gran fighe, anche le racchie hanno il diritto di andare in trasmissione. Ma devono avere delle cose da dire, certo. Dipende, quello dipende, è il tema, dipende, il tema dipende, è solo quello, fermola, esattamente. Fermola. Ogni giorno siamo bombardati da notizie, immagini e informazioni. Ma troppo spesso quello che è davvero importante non viene spiegato o viene addirittura nascosto. Se non vi accontentate, su 9 ci siamo noi. Peter Gomez presenta Sono le 20, l'informazione che si vede. Dal lunedì 20 gennaio alle 20 sul canale 9 del Digitale Terrestre. Fai già accesso ai dati di Banca d'Italia? Da oggi puoi essere sempre connesso e presidiare gli affidamenti accordati dalle tue banche. MF Centrale Risk aggiorna automaticamente i dati della centrale rischi effettuando le analisi tipiche delle banche. Potrai visualizzare i grafici in CR, i fidi accordati, gli utilizzi, gli sconfini e tramite l'app riceverai le notifiche delle anomalie rilevate. Richiedi una dimostrazione su mfcentralerisk.it. mfcentralerisk.it, una garanzia Milano Finanza. Promo Miau! Questo mese sconti fino al 50% sul Grass porcellanato. Promo Miau! Prima non c'era, ora c'è. Negozi Iperceramica. Prezzi super, qualità iper. Iperceramica.it. Miau! Ehi Flowy, scarica le PEC e smistale ai destinatari corretti. Flowy, i documenti in uscita sono firmati digitalmente? Flowy, hai protetto le comunicazioni con dati sensibili? Flowy? Flowy è la soluzione DocFlow a cui non devi chiedere nulla. Classifica, smista e mette al sicuro automaticamente le PEC grazie all'intelligenza artificiale. Flowy, F-L-O-W-E-E. Scopri di più su flowy.net. Stagione giusta per un bel climatizzatore. Sei fuori? No, no. Fino al 13 febbraio da 1 euro con i migliori climatizzatori come il Daikin Monosplit in classe A++ a 599 euro ci portiamo a casa in più l'asciugatrice Bosch. Tutti e due insieme a 599 euro? Sì, e con il tasso zero per pagare aspettiamo la bella stagione. Tanetag 0%, 20 rate, salva approvazione della finanziaria. 1 euro. Batte. Forte. Sempre. Imprenditore, progetti per il nuovo anno? Realizzali, i soldi te li dà Credimi, fino a 2 milioni in 5 anni senza garanzie. 5.000 imprenditori lo hanno già fatto, tu cosa aspetti? Vai su credimi.com. Messaggio promozionale, fogli informativi su credimi.com. Lo sapevi? Gli ebrei riescono a leggersi nella mente. È considerato uno dei migliori film dell'anno. Ma come fai a riconoscerne uno? Potrebbero sembrare come noi. Candidato a 6 premi BAFTA. Non sei un nazista, sei un bambino di 10 anni a cui piace indossare una buffa uniforme e che vuole fare parte di un gruppo. Jojo Rabbit, dal 16 gennaio al cinema. Promo 24. Appuntamento alla Pipeline and Gas Expo 2020, The Utility Construction Show, l'unica manifestazione fieristica in Europa interamente dedicata ai comparti del midstream e delle reti distributive di gas, oil and water. Attrezzature, strumentazioni e prodotti per la costruzione, il monitoraggio e la manutenzione delle pipelines e tecnologie dedicate alla gestione di gasdotti, oleodotti e acquedotti. Alla Pipeline and Gas Expo 2020 sono anche previsti convegni con relatori di fama internazionale dedicati al futuro del mercato del gas e del biogas e alle tecnologie del LNG anche nel comparto marittimo e dell'autotrazione. A Piacenza Expo dal 20 al 22 maggio 2020. Per info pgexpo.eu. La Zanzara. Io è l'abbiato di Donald Trump. Di Iran. Guarda, Donald Trump, guarda, all'abbiato, guarda di mia collo. Guarda, Donald Trump, mamma mia. I will be. Mamma mia, Donald Trump. Trump. Oh, slayer to Donald Trump. Oh, Confucius. Sempre casino, sempre casino. Iran, America, sempre casino. Donald Trump. Oh, boom, boom, boom, boom, boom. Number 10 for C. Oh, boom, boom, boom, boom, boom. Donald Trump. Your sound manager won't do that. Oggi, all'abbiato brutto, brutto, brutto. Eccoci. M'ha chiamato mia suocera adesso. È morta una sua vicina di casa al pian terreno, la signora Carbone, l'anziana, una sua amica che l'aiutava. Hanno messo il cacciavite dentro la serratura, sono pronti ad occupare un altro alloggio, un terzo alloggio. Niente Cruz, sono andato adesso, hanno occupato altri due alloggi, sì. C'erano due volanti, parlavano sopra, uno al quarto piano, un'altra gli ha detto tu non puoi stare qua, mi ha alzato il bambino, mi ha detto io bambino piccolo, quelli del posto non si ribellano, non dicono niente, tutto finito. Sono passati i poliziotti adesso e sono andati via perché hanno i bambini e non possono fare niente. Solito. Non so, hanno preso 4-5 alloggi. I Rom, 6, signori Rom. Capito Parenzo, signori Rom, che fanno? Sì, sì, sì, sentite, cioè, sgomberano il campo Rom a Torino. E che fanno questi signori Rom? Cioè non è che vanno a cercarsi vanno come tutti i cristiani. Vanno a trovare delle alternative. Vanno a trovare delle alternative. Le alternative sono l'agenzia immobiliare. La legalità. L'alternativa è l'agenzia immobiliare. L'alternativa è la legalità. Tu vai a bussare. Appunto, condizioni per cui le persone che hanno delle abitudini diverse dalle nostre trovano Che vuol dire? Scusa, non ho capito. Che non devi andare all'agenzia immobiliare a cercarti la casa. Sai quanti ma sai quante persone vorrebbero andare all'agenzia immobiliare? E ci sono tanti poveri italiani, nostri italiani, nostri fratelli d'Italia, graduatoria. Ma non possono andare tutti a fare il culo. Bisogna organizzare, lo Stato deve organizzare affinché non trionfi l'illegalità. Tutto qua, è normale. Le case popolari chi è che le costruisce? Il privato o lo Stato? Allora ti faccio sentire una cosa che mi è rimasta impressa da ieri sera. La signora Marina La Rosa, come sai, showgirl, protagonista del primo Grande Fratello, ma insomma questa è roba passata di cui non ce ne può fregare meno, però ha parlato di una pratica, chiamasi pissing, caro David, pissing, certo, proprio certo. Qui, proprio sono qui, sono amareggiato, questa... ma c'è... perché sei amareggiato? Certo, non sono, amareggiato, sono amareggiato, perché sei... perché che cosa vuoi che ti dica? Perché fate passare me per anormale e... non ho e la signora fa la pipì addosso al fidanzato, va bene, ma non mio, non... qual è il fate problema? Fate quello che volete, cioè, detto, se uno ha questa dire, ma cosa devo dire però? Ma più di dire fate quello che volete, devo anche condividere di fargli fare la pipì addosso, però no, non dovresti. Devo insegno, passo la vita a insegnare ai miei tanti figli che da fin da quando sono bambini che devono figli, fare la pipì nel water. Sì, tre, mica poco, insomma, sono io un fratello, un patriota. Sì, vero, onore! Vero, io vorrei che la Meloni mi dicesse dal palco: onore a Parenzo che ha fatto tre figli. Quanti figli ha fatto lei? Una. Io tre. Onore! Onore! Io vorrei che dicesse onore qualcuno, dovrebbe qualcuno della destra, vorrei che riconoscesse onore contro l'invasione degli immigrati. Io ho fatto tre figli contro l'invasione, contro la sostituzione etnica. Tre figli. Adesso, ho dato questo alla che c'entra? Patria. Che c'entra? Non c'entra nulla, ma solo per dirti che no, io dici, passo, tuoi figli, hai passi, ho passato dire. Anni, adesso sono tutti grandicelli ormai per fortuna. No, beh, uno è piccolo, per cui ancora la pipì fuori dal vaso la può fare, cioè, la pipì no, a letto magari la può fare. No, comunque vabbè, allora a farla per benino. Allora hai passato a fare la pipì nel water. Ora tu immagini se io educassi, dicessi ai bambini: guarda, papà poi ha un'altra pratica. In realtà si può fare la pipì addosso dalla mamma. No, ma voglio dirti per, esatto, per spiegarti, per spiegarti che non è normale. È normale insegnare, se io insegno ai bambini la pipì va fatta quando ti scappa nel water, si tira possibilmente l'acqua, possibilmente per educazione, ci si pulisce il pisellino con la carta igienica, alle volte ci si fa anche un bidet rapidissimo. Dunque? Per essere puliti e via. Pensa te se dopo che io ho insegnato questo un giorno i bambini venissero a sapere che il papà fa la pipì addosso alla mamma. Voglio dire, ragazzi, o viceversa in questo caso. Viceversa. Per carità di Dio, viceversa, o viceversa. Per carità. Ma viceversa. Quello che c'entra, primo, allora, perché glielo devi spiegare, grazie alla corte. Primo, perché glielo devi spiegare. No, secondo, spiegare, dico, il paradosso, perché glielo devi spiegare. Secondo, perché passiamo, perché i nostri genitori passano una vita nel spiegarci delle regole base. Ma perché base. Devi pensare che sia una roba, una allora porcheria? Fate perché così. Devi è una ma pratica posso, sessuale come sono un'altra. Un radical chic. Dai un bacio a qualcuno, baci la tua fidanzata. Un altro invece si fa pisciare addosso. Qual è la differenza? Qual è la... E io più di dire viva devo anche condividere. Dico semplicemente viva, ma non lo condivido. Ma cosa devo, mica lo voglio incarcerare. Però pensateci bene, ragazzi. Però scusate, pensateci bene. Che differenza c'è? Ti solamente far passare per ma solamente che nella nostra addosso, solamente vabbè. Perché noi abbiamo dei tabù in testa, solamente perché noi abbiamo delle fissazioni in ma testa. Ma non è una fissazione. Che differenza fai c'è un sondaggio, tra un bacio appassionato l'elenco. Tra un bacio appassionato e il fatto che una femmina ti pisci addosso. Adesso oggettivamente qual è la differenza? Ma adesso non è devo un incontro di intimità, è un incontro di pelle, un incontro di... Sono imbarazzato e dispiaciuto anche per la tua famiglia. Sono dispiaciuto, perché? Dispiaciuto. E comunque sentiamo Marina Rosa, dai. Sentiamo Marina Rosa che ha aperto questo dibattito. No, ma poi carità. Prendi a non caso l'elenco telefonico. A caso l'elenco telefonico, chiama, sì, scusi, lei si farebbe pisciare. No, ma non sai cos'è. Scusi, un sondaggio, cosa, un sondaggio qualunque. Scusi, lei si farebbe fare la pipì addosso da sua moglie? Vediamo. No, non si può fare. A caso, vai a vediamo, vai un sondaggio, no? A caso. Prima sentiamo Marina Rosa, pigliatemi un nome a caso sull'elenco, dai. Sì, facciamo questo caso, tentativo, scusi. La gente non si fa pigliare per il culo così. Ma vabbè, provo, dai. Tentativo, un sondaggio. Fatemi, che ne so, siamo all'istituto dei sondaggi. Chiama in Sicilia, a Palermo. È successo negli anni che mi ha chiesto di fargli una... Vai tranquilla. Non lo so perché, insomma... Di fargli? Come si chiama la doccia dorata, mi sembra. La pioggia dorata. Quindi lui si è seduto, si è accomodato in questa doccia e io l'hai fatto fatta? La pipì, ecco. Ma l'hai fatto tu? L'hai fatto? Mamma l'hai fatto? Mia. Questo mamma apre mamma mia. non riesco a capire francamente quale sia il problema. Comunque, non riesco francamente a capire quale sia il problema. Non riesco capirlo. A capirlo, no, perché chiama tu consideri questa cosa come una cosa chissà. Ma non cioè... io non considero evviva, non considero niente. Lo vuoi farti pisciare? Dai, fatti pisciare, chi se ne frega, ho capito, va bene. Chiamami non qualcuno, passare vabbè, questo per chiamami normale. Chiamami qualcuno, una qualsiasi persona. Dice buonasera, siamo l'istituto. No, sono Cruciani. Cruciani e Parenzo dei sondaggi. Sì. Istituto sondaggi, sì. Cruciani e Parenzo, una nuova società che è stata fondata. No, va bene, d'accordo, ma sì, non c'è problema. Partita IVA 457432. Faccio io, dai. No, ma adesso lo facciamo, non ti preoccupare, stiamo per fare nulla. Sondaggio, un sondaggio. Sì, però vedrai, la gente non sa nemmeno. Cioè, è chiaro che non lo considera normale, ma è perché stiamo nella nostra testa c'è questo impedimento. Sulle nuove modalità di approccio sessuale. Siamo un nuovo istituto di sondaggi, appena nato. La Cruciani e Parenzo and Co. Perché quelle serie hanno sempre and co. I nomi e poi and co. Che cazzo è and co? Sempre. Allora? And co. Stiamo facendo uno studio per cercare di capire le nuove abitudini degli italiani. Lei si farebbe urinare addosso dal suo compagno? Sì, ma quello ti manda a fare in culo sicuro, cioè la prima quando lo chiami. Secondo te perché? Perché è una persona normale e ha ragione, cioè avrebbe ragione sicuramente, certo. Una mia amica mi scrive, la gente si vergogna di dirlo, ma l'hanno fatto quasi tutti adesso, su questo quasi tutti. È una tua amica, infatti è una tua amica, non c'è un po' di dubbio, benissimo. Adesso. È una tua amica. Ovviamente il numero che abbiamo fatto non risponde a nessuno. Eccoci. No, questo è quello è il turco. Questo è il turco, sì. Questo è il turco. Chiediamo un altro, forza, d'Italia, 60 milioni di italiani, ci sarà un... Anna da Genova, dai, Anna da Genova. Gli over 40 specifica questa mia. Ciao. Dimmi io, dimmi. Evviva. Però io non mi farei urinare sopra, assolutamente. Però magari urineresti sopra qualcuno, adesso non vorrei espandere. No, no, nemmeno no, qui. No, cioè, no, allora sei parenziana, non è normale secondo te? Non è normale. No, no, no, perché non è normale? Se uno vuole chi se ne frega, appunto, basta che non cioè, io non lo faresti, però tu niente, non lo faresti, certo, ma non lo fa, lascia perdere subire, ma non lo faresti nemmeno come ha fatto la signora Marina La Rosa, non lo faresti nemmeno. Cioè non te l'hanno mai chiesto, Anna? Sì, sì, sì. Lo vedi che gliel'hanno chiesto, però è diversa la cosa. Cioè, c'è un mondo inesplorato. Cioè, ci sono dei compagni. Guarda, fidanzati. Un grande dirigente d'azienda, sì. Si chiama Gabriele, sì. Un mio cugino, peraltro. Ma di un'importante azienda, mi dice: posso confermare che non ho mai pisciato addosso a nessuno. Questo è un pezzo del paese. No, ho capito. Ma è un pezzo del paese. Pezzo vabbè, del paese. Comunque, Anna, dimmi. È un pezzo del paese, peraltro, che produce, che ha anche disponibilità economiche, che è un pezzo di paese. Non posso dire il cognome. Tutti pisciano, cioè, non voglio dire che uno questo, non c'ha c'è dubbio. Sì. Il problema è dove e come, cara. Il problema è dove e come. Esatto. Io concordo. Dimmi, io dimmi, concordo. Dimmi. Abbiamo trovato allora, una parenziana incredibile. Vai, dai. Come dici? Abbiamo trovato una parenziana, no, una normale. Sexual parenzian, diciamo. Guarda, dai. Io sono più parenziana lo che... Vedi? Lo sapevo, sì, è normale. Sono più parenziana. Ma si è capito subito. Ma si è capito però, immediatamente, però non c'è problema. Però, ma si è capito subito però. Dall'approccio, dai, l'approccio è questo approccio finto gentile, questo finto buonista. No, c'è nessuna cosa. Anche le cose che dirai, perché vedo perché leggo qua vuole parlare di Amadeus, sono sicura sì. Barra sicuro sì. Barra sicura che sì. Tu parli, dirai che è un po' sessista, cioè sicuro. Guarda, scusami, sicuro. La battuta più bella, scusami, poi lasciamo subito la parola alla nostra ascoltatrice. Dimmi. La battuta più bella l'ha fatta Lercio, che ha scritto: Amadeus due punti, le donne canteranno dopo le 23 per avere il tempo di sparecchiare. Stupendo. No, ma questa è una battuta, che c'entra? Vabbè, Anna, dimmi, dai, allora Lercio. Allora, quello che io voglio dire è questo: sebbene io sia dire? Sempre contro di te perché sono un po' anticruciani, sì, per me Amadeus è un po' una belina, già come mi fa arrabbiare, no, è una belinetta nel senso che è una un'incapacità comunicativa. Vabbè, può darsi che non è brava a fare le conferenze stampa, ma chi sì, se ne fotte? Gli si chiede di fare le vero. Conferenze stampa? No, gli si chiede di condurre il Festival di Sanremo? No. E chi se ne frega se pensa che quella ragazza lì... Aspetta, adesso ti faccio parlare. E chi se ne frega se quella ragazza lì, che è la fidanzata di Valentino Rossi, a lui ha detto: guarda che mi sono tirato un po' indietro perché... chi se ne frega dell'incapacità comunicativa se c'è di Amadeus nella conferenza stampa del cazzo che gli italiani perché non conoscono? Fa, gli italiani guardano solo lui. Il festival, non pensano non che Amadeus vero, sia sessista. Tutto. Fermola. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta Alge Collection, la vetrina di Idrocentro. per il bagno, la cucina, il pavimento, il rivestimento, il legno, la ceramica, la pietra, il marmo, il benessere. Con prezzi chiari e facili da consultare su algecollection.it. Alge Collection, qualità dei prodotti ed efficienza dei servizi. A casa Rovazzi tutti super connessi con la super fibra Wind. Lo sentite? Questo rumore è Paolo che scarica un film in un attimo. Questo è Dani che gioca ai videogame senza sosta. E questa è Marta, felice perché si scarica un brano dietro l'altro. Scegli la super fibra di Wind a 25,99€. Stop! Ho detto 22,99€ al mese. 22,99€. Dai, dai, rifacciamola. Corri nei negozi Wind, chiama al 159. La promozione è valida solo fino al 26 gennaio. Verifica copertura, limitazioni e condizioni su wind.it. Andrea, lo sai che io vedo tutto? Padre, allora avrà visto anche lei che in Poltrone Sofà ci sono i doppi saldi. In Poltrone Sofà, doppi saldi, doppi risparmi. Sconto 50% più fino a un ulteriore 40% su tutta la collezione. E il finanziamento 48 mesi senza interessi termina domenica 19 gennaio. L'aspetto in negozio. Ci sono già, Andrea. Io sono in ogni luogo. Poltrone Sofà, autentica qualità. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i negozi, salvo approvazione delle finanziarie. Nel 2002 mi sono diplomato. Nel 2006 ho aperto un bar. Nel 2010 mi sono sposato. Nel 2011 è nata mia figlia. Nel 2015 sono stato arrestato per omicidio. Nel 2016 sono stato condannato a 30 anni. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte ogni giorno contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. La Zanzara. E invece me li voglio far vedere tutti e cinque, dai, fammeli vedere tutti e cinque i nostri rom. Ce li abbiamo, ce l'abbiamo la foto? No, questa qui l'ho uccisa, non ho più uccisa. D'accordo? Hey! Cruciani, come si fa a paragonare Totò Riina con il Duce? Ma non è, dai, non ci stanno né in cielo né in terra. Hai detto una cagata pazzesca. Il Duce, ma è un coglione il Duce, un gran coglione. Eccoci qua, Crucio. Sì. A Sequals, nei miei paesi, ed eccoci qua dal mitico Polegato, leggi bene, aperto solo per camerati, grandissimo. Camerata Benito Mussolini! Posso dirti? Istintivo. No, lo so che è istintivo. Cioè, però, quel matto di Polegato. Davanti al suo ristorante, sai che c'è una locandina dove si scrive col gesso sopra, no? Una specie di lavagnetta, e uno mi ha mandato le immagini, ha scritto aperto solo per camerati. Solo per camerati. Però dimmi la verità, tu lo faresti chiudere uno come Polegato? Dimmi la verità. Cioè, secondo te il ristorante di Polegato, dove ci sono quello vestito da fascista? Farei rinchiudere Polegato più che altro, non chiudere per il ristorante di per sé. Farei rinchiudere Polegato. Ma c'è bisogno Polegato. Di gente come Polegato? Rallegra la non giornata, gente come Polegato. No, non rallegra, arricchisce gli ospedali psichiatrici. Ma quello è un altro discorso. Ma non rallegra la giornata. Ti assicuro che uno che gira col Fez in testa, vestito da Comunque, Mussolini, ti ho parlato. Nel 2020 non rallegra la giornata. Sì, può rallegare. No, può, come dire, dar lavoro ai medici. Dar lavoro ai tanti medici disoccupati che invece potrebbero lavorare, quello sicuro. Allora, ieri ti parlavo della pizza al kiwi, no? Questa cosa folle, ridicola, sì, della pizza al kiwi. Tu pensa che un signore svedese dice di averla inventata e sostiene che dall'Italia di aver ricevuto minacce di morte dall'Italia. Dopo aver postato la sua invenzione. Ma io voglio dire, caro signore svedese che ha inventato la pizza al kiwi. Questo signore qua. Troppo poco le minacce che ha ricevuto. Questo qua andrebbe messo in galera. Cioè, ma questo perché? Qua andrebbe messo in della galera. Pizza al kiwi, non mangiarla. No, ma non la mangio. Ma uno che le si inventa la pizza al kiwi. No, che le tradizioni. Tu vedrai che martedì pizza. Giordano fa un pezzo sulla pizza. Sicuramente, guardate cosa fanno in Europa. No, come in Europa? Ma perché l'Europa? Non è l'Europa che lo fa. L'Europa distrugge la pizza. Vabbè. Comunque ragazzi, in Slovenia sono molto più avanti di noi, ma molto più avanti di noi. Mentre noi i bordelli con le bambole li abbiamo chiusi, difficoltà ad aprirli per motivi burocratici, gente che rompeva il cazzo. Oppure non ci andava nessuno in alcuni casi. In Slovenia, a un passo dal confine con l'Italia, ha aperto un bellissimo bordello con le bambole. Ora magari fallirà anche questo. Intanto ha aperto, nessuno dice niente, non ci sono casini, moralismi, cazzate, eccetera. Moralismi, se uno vuole andare a letto con una bambola, con... Ma voglio dire, allora eravamo con Anna da Genova, dai, Anna da Genova. Allora Anna, non ho capito bene Anna la tua... da Genova, sì, non hai capito ma non mi hai fatto parlare. Dimmi la tua... il mio punto di vista, che sì, anche in Italia... Intanto un deputato della Repubblica corregge, mi dice, guarda che non si dice pissing, ma un deputato della Repubblica, non si dice pissing, ma si dice golden shower. Cioè, questa è la precisazione. Un deputato della Repubblica Italiana sostiene che la definizione. Del PD, posso dirti? La definizione. Diciamo almeno questo. Non è del PD. Un deputato della, cioè, lo sottolinea perché non sono umani anche loro. Cioè, certo, se tu sei open, sarai open anche con loro. Sì, assolutamente. Sì, non ho capito. Ma che fai? Mi critichi per questa cosa qua? Non ho capito che ho detto un deputato. Ho detto per definire la persona che me l'ha detto. Che cazzo vuoi? Cioè, no, hai sottolineato come se fosse. Deputato della... No, assolutamente un deputato della Repubblica Italiana. Uno che fa un imprenditore, avrei detto un notaio, un avvocato, un camionista. Ti scrivono i deputati, l'uomo del popolo. Vabbè, lì. Anna, all'uomo del popolo scrivono, perché a un italiano qualunque gli scrivono un deputato, secondo te? Ma cosa c'entra? Dai, facciamo populismo basso. Dai, Anna, dimmi. Populismo basso. No, io questo volevo dire, che per quanto la comunicazione di Amadeus sia un po' limitata, ha detto 3000 volte bellissima in 30 secondi. Pazienza, non gli si chiede di fare le conferenze stampa. Insomma, di Sanremo ogni giorno c'è una conferenza stampa a Sanremo. Deve presentare Sanremo, non le conferenze stampa servono ai giornalisti. Parte del suo Allora? Comunque il poverino, che è un po' bellina, non voleva dire quello che ha detto, perché secondo me lui le donne le tratta bene. Ma sicuro. Che è limitato. È limitato nel vocalmente. Vabbè, è limitato. Adesso abbiamo capito che uno che lavora da 40 anni è limitato. Vabbè, non è che sia raccomandato. Ma cosa c'entra? Ma non è che uno che è raccomandato, c'entra? Spinto da qualcuno, eccetera. È uno, un professionista, che magari non sarà capace di fare le conferenze stampa. È capace di condurre su un palco, bravo, che è quello che conta. Bravo. Non di dire ai giornalisti quattro cazzate, le solite cose che si dicono. Dai, su. Cruci. Cruci un cazzo, Sergio da Genova. E vabbè, sarà pagato, Sergio da Genova, sì. Una roba incredibile, deve fare le conferenze stampa, mo Amadeus. Io manco lo conosco bene, lo sto difendendo senza conoscerlo, Sergio da Genova. No, io invece gli voglio anche bene, figurati. Dai, Sergio, dimmi. No. Pensa se gli volevi male. Sergio, no, dimmi. No, ma non... Ciao. Dimmi, Sergio, dimmi. No, niente, non ti ricordi di me, no? Sono quello, lo scambista, quello singolo. Come dimenticarsi di Sergio da Genova? Certo. Scambista singolo che va nei parcheggi, no? Non eri tu che vai nei parcheggi, no? Bravo. Sì. Com'era bravo. La storia? Tu vai nei parcheggi, trovi una coppia e te la trombi, questa è la storia. No, parcheggi più che altro, più che parcheggi, alture, sulle alture di Genova. Ah, sulle alture di Genova, sì, è vero, mi sono dimenticato. Mi confondo tra due Sergi, uno che faceva parte di una coppia scambista che è venuto qua ospite in questa disgraziata trasmissione. Lo so. E invece tu che chiamavi, che andavi sulle alture di Genova, che poi che cazzo io vuol dire? Io sono quello che aveva partecipato a quell'incontro di zufolatori di piedi con mio socio, che siamo scappati praticamente. Sì, praticamente sì. Ma voglio capire, tu continui a fare, come dire... Sì, si chiama cruising, la nuova tendenza si chiama cruising. Cioè, che cazzo vuol dire? Che cosa vuol dire cruising? Che tocca e leva, cioè tu vai in quei posti lì, no? Ci sono queste coppie qua, sì, però vanno prese al momento, no? Se non gli piaci, se non... Ma questo però cosa, anche prima, non è una cosa nuova questa qua. Generale, credo. No, prima ce n'era alcune che si adattavano un po' a tutto, no? Stavano lì e prendevano quello che capitava. Adesso invece sono molto selettive. Sono molto più selettive, c'è questo cambiamento. Sta prendendo campo, ma campo tanto sui giovani, perché prima era una cosa da quarantenni. Cinquantenni, eccetera. Invece adesso molti... Non ho capito chi è che va, le coppie di giovani, dici tu. Giuseppe, quando mi dai 2 minuti, poi anche più un'altra trasmissione, ti racconto come ho fatto a cominciare. Una scena da Totò, Peppino, Gianni Pinotto. Ma adesso me la devi dire, che è un altro giorno, non c'è un domani, del domani non c'è certezza, qui domani siamo tutti morti. No, però adesso al di là dei 2 minuti, voglio capire da te una cosa. Tu hai detto che c'è una nuova moda, che è quella del cruising. Esatto. Ma non è diverso da quello di prima. Tu stai dicendo che l'unica differenza è che adesso sono un po' più selettive le coppie, prima invece erano un po' più facili, o no? Ma prima erano più o meno quasi sempre le stesse, capito? Già. Ma che c'entra il cruising adesso? Il cruising nel senso che girano, capito? Girano, fanno come una crociera, no? Girano avanti e indietro, no? Poi quando trovano la persona giusta, ho capito. Ti fanno, al prima invece si posizionavano. Ma tu come vai? Sempre forte, vai? L'età è quella che è, ragazzi. Cioè, quanto hai? 66. Oh, 66. Tu a 66 anni ancora vai nelle colline di Genova a trombare coppiette? Ma stai scherzando? Io al mattino vado a correre più giorni, mi tengo in formissima. Mattino vai a correre, poi pomeriggio non fai in cazzo, sei in pensione sicuramente? No, c'ho ancora 3-4 mesi. 3-4 mesi? E dove vai a lavorare? Pensione? Posto fisso? Sì, ASL. Posto fisso all'ASL, posto fisso all'ASL, saranno contenti all'ASL, benissimo. Ma un problemone. E poi quando è che vai a trombare? Alla sera, tra poco vado. Cioè ogni sera vai, quasi ogni sera? Quasi ogni sera. Sei single? No, sono sposato. Sei sposato? Ah, sposato. Ha figli anche magari? Tua moglie che fa? Che dice? E sono della parte politica di Parenzo. No, ma che dice tua moglie? So questo voglio capire. Tua moglie cosa dice? Non so un cazzo. Non sa un cazzo, ogni sera te ne vai e vai a trombare sulle alture di Genova. Vado a pallone, vado a parlare con gli amici nel bar, vado a giocare a bocce. Perché? Ogni giorno ne inventa una, insomma. Io non ho capito, certo. Adesso è più complicato o no? Cioè, come funziona? Tu vai là in uno di questi parcheggi? No, sì, ci sono i posti, guarda, se tu vai sui siti, i posti che qual sono... Qual è quello più forte? Ma che non l'ha mai meccata sua moglie invece, scusi, sua moglie non l'ha mai tanata? No, dammi del tuo, Davide. Scusami, tua moglie non ti ha mai beccato? No, mai. Ma neanche tipo sospettato una volta che magari sei arrivato tardi, avevi un odore particolare? Ma sospettato lo sospetta quando sono scarico, perché insomma... Cioè, quando non trombi, sì, quando sei scarico. Reggere tutto, però sai, poi l'età, una cosa o l'altra, Però io ho il sospetto di una cosa, caro amico da Genova, che in realtà tua moglie sia un cesso. No, più giovane di me, non è un cesso. E perché tu c'hai questa fissazione? Perché non ha quelle pulsioni che ho io, capito? Piace proprio l'idea di vedere una coppietta piombare dentro la macchina? Come funziona la cosa? Qual è il posto A me piace la caccia, guarda, ti dico la caccia, questa mica è caccia, stai lì. La caccia della donna, lui dice. No, non hai capito, la caccia nel senso che è la novità, no? Cioè tu ti devi cercare quelle che sono le... Perché ora ti spiego, ha preso molto campo più giovani, cosa che ti stavo dicendo prima. Ah, dunque ci sono tutte le coppiette di ragazzini, diciamo. Fino a che non esplodevano i siti, queste cose qua, era roba da quarantenni, cinquantenni. Così. Sì. Adesso c'è carne fresca, diciamo. C'è carne fresca. I che vanno sui siti, voglio l'altra sera, hanno beccato una con la 500 di quelle nuove, che mi ha chiesto, appunto, ha visto la persona magari un po' più di età, mi ha chiesto informazioni. Ma c'era anche il marito, il compagno, il fidanzato, che c'era, sì. Sì, con la fidanzata, 500 nuova. E che hai fatto tu? Che hai fatto? Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, però prima abbiamo parlato, anche chiesto informazioni, ci sono dei cagacazzi che ti seguono, vengono dietro. È normale. Vabbè, ti abbraccio, ti abbraccio. Ciao. Beh ragazzi, grande ritorno in questa disgraziatissima trasmissione per il nuovo anno. Non poteva mancare naturalmente il direttore di Libero, Vittorio Feltri. Buonasera. Eccolo qua. Carissimo. Evviva. Buonasera, evviva. Direttore, benvenuto. Un trionfo assoluto, devo dire la verità. Vittorio Feltri è l'unica persona di cui del nuovo anno non gliene frega cazzo. Questo, certo. Possiamo dirlo, Vittorio, chiaro, semplice, eccetera. A me del passare dell'anno nuovo, cioè non me ne frega nulla, o no? No, non me ne frega nulla, anzi mi dispiace perché ogni volta che passa un anno è uno di meno che dovrò vivere. Sì, è questo effettivamente questo è così. Giusto, questo certo, non è contestabile nemmeno da Parenzo. No, nemmeno Parenzo può contestare. Anch'io condivido che il 31 di dicembre non me ne frega proprio un cazzo materialmente. Vedi, trovate ogni tanto dei punti in comune. Ceno con gli amici. Mi voglio riallacciare una cosa, caro Vittorio. Tu hai mai mangiato, adesso ti faccio una domanda proprio che non c'entra niente con l'attualità. Hai mai mangiato la pizza col kiwi? Perché pare che in Svezia si siano inventati una cosa di questo tipo. Io immagino che tu nemmeno la pizza ami moltissimo, no? No, io non mangio neanche la pizza, figurati se la mangio col kiwi. No, tu la pizza proprio non te ne frega niente della pizza. Povero, no, la pizza. Ma non è che io non abbia apprezzato almeno in passato la pizza, quando stavo a Napoli ho mangiato volentieri, certo oggi non mi piace più, ma così si cambiano i gusti. Sì, da anni che non mangi la pizza. È da anni che non mangi la pizza. Tra l'altro tu mangi anche pochissimo in generale. Cioè... Sì, fra l'altro anche quello. Cioè, meglio bere che mangiare di solito. Cioè... Vabbè, perché bere è più semplice che mangiare. Cioè, tu devi sapere, Vittorio, Parenzo, che veramente il direttore mangia pochissime cose, ma proprio pochissimo, quasi come un... Si direbbe una volta, com'è che si direbbe? Come un pulcino. Ma non va sempre in quel meraviglioso ristorante, carissimo peraltro, come si chiama lì, il Baglioni, come si chiama il Baglioni? Ma anche, no? Ma che c'entra, ma non è che questo uno qua... va al ristorante e non mangia, scusa, ma che roba è? Beh, ma ho capito, ma uno fa cazzo che vuole. Ma per carità, ma certo, figuriamoci. Allora, senti, una stranezza. Vittorio, come trovi la vicenda di Amadeus, che è abbastanza incredibile? Sì. Ora, posto che la premessa è che a noi di Sanremo non frega assolutamente nulla, niente. Ma neanche di questo, ma c'è una cosa di cui interessa, no? Non ho capito, tu non hai mai visto Sanremo in vita tua, io per esempio è anni che non vedo nemmeno un frame di Sanremo. Tu hai mai visto Sanremo invitato? Quant'è che non vedi Sanremo? No, l'ho visto qualche volta, mi è capitato di seguire per 20 secondi, 30 secondi il Festival di Sanremo, però non è un programma che mi affascini particolarmente, per cui evito di vederlo. Sì, no, assolutamente. Non è un atteggiamento snobistico, no, io, per non carità. Mi interessa. No, ma stai lì davanti alla televisione a sentire le canzoni, a vedere quello che dicono i conduttori, per carità. Però adesso c'è una polemica che riguarda, come sai, il presentatore di questo festival, che ha detto che ha invitato delle belle ragazze come sue, diciamo, come co-conduttrici, e ha detto anche di una di queste ragazze che, insomma, l'ha scelta perché è la fidanzata di Valentino Rossi, anche perché sta dietro al suo uomo, ha scelto di stare dietro al suo uomo, e lo hanno accusato di sessismo, maschilismo, eccetera eccetera, che è una puttanata pazzesca. Tra l'altro, una la conosci la scrittrice Murgia, te, Michela Murgia? No, purtroppo devo ammettere che non la conosco. Neanche la Murgia conosce. Vabbè, basta. Ha detto che è assurdo dire che è una delle più grandi scrittrici italiane. Ma no, che grandi scrittrici italiane. Assolutamente. È assurdo invitare belle donne e dire che si invitano le donne perché sono delle belle donne. Questa mi sembra una follia, o no? Ma diciamo che io credo che se devo invitare qualcuno a casa mia, cerco di invitare le persone più gradevoli, quindi se sono anche belle, è meglio. Aiutano a definire gradevoli. Ma che c'entra? Uno invitare una persona interessante, no? Se è bella o brutta, cosa c'entra? Sì, vabbè, c'entra anche se è bella o brutta, perché... Beh, ho capito meglio, cosa c'entra. Scusa, allora dice invito ma non capisco il criterio, però scusa. Ma se vuoi invitare una bella, invitasse una bella. Ma la inviterà una persona interessante, immagino. Dici invito una bella. Ma è meglio, una persona, scusa, è meglio una più figa o più interessante? Vabbè, per me è meglio. Ho capito che Parenzo invita i cessi. Sì. No, ma non è questo, no. Cioè, non è così correlato. A Parenzo, caro Vito, piacciono più gli un intellettuale cesso piuttosto che un ignorante figa. No, tu che cosa scegli dire? Tra un ignorante figo e un intellettuale cesso, così tanto per capirci? No, io preferisco, cioè, intellettuale, a me gli intellettuali non me ne frega un cacchio. Eccolo qua, vabbè, questo. Tanto per cominciare. Sì, io invito le persone che mi sono simpatiche, con le quali ho un affetto. Ah, certo. Invito volentieri e finisce lì, ma non è che mi sto a chiedere se ha studiato bene Dante o non ha studiato bene, non me ne frega niente. Poi in più, se sono anche gradevoli quando sono donne, se hanno quell'aspetto di gradevolezza fisica, forse è meglio, no? Cioè, mi sembra ma non di... c'è dubbio, io preferisco le belle donne a quelle brutte. Vabbè, credo che sia un problema. Ma infatti il problema ritorna a questo, al punto nevralgico. Mia moglie che mi sta guardando con l'occhio storto. Io fossi della signora prenderei guardando, anche una bella scopa in mano. Fossi della signora prenderei anche un manico di scopa in mano. Ma per fortuna che tu non sei mia moglie, perché non ti terrei qui neanche 5 minuti, ti butterei fuori a calci nel culo. Ho capito, dico, forse la signora io impugnerei il manico di una scopa. Mi sembra un rapporto ormai consolidato e come dire ormai provato a qualsiasi cosa, no, Vittorio, dopo tanti anni. Tutte sciocchezze, questi sono luoghi comuni. Cosa bisogna fare per tenere fermo un matrimonio come hai fatto tu? L'hai detto tante volte, però adesso il fatto che tu sei a casa a quest'ora è anche un po' strano, alle 8:10 di solito. Ecco, che cos'è che tiene insieme giornale il matrimonio? Già chiuso, per esempio, già ovviamente chiuso. Ma guarda, io con mia moglie ho un rapporto buonissimo, io le voglio bene, sono sempre pronto a correre in soccorso suo, se ha bisogno, e lei è sempre pronta a correre in soccorso mio se ne ho bisogno, quindi io con lei sto benissimo. È un rapporto di mutuo soccorso? Certo, sì. Ottimo. Come deve essere un qualsiasi matrimonio che voglia durare, altrimenti dopo qualche anno, 3-4 anni che stai con una donna non la sopporti più. Ma questo è chiaro, cioè un rapporto di mutuo soccorso è esattamente la definizione di un rapporto maturo, caro Parenzo. Anche tu pensi di stare con la tua donna e di farci sesso, per esempio, dopo 20 anni? Questo sono, sai, argomenti che sai, in genere io non tratto pubblicamente, no? Davanti a milioni di italiani. Ha ragione Parenzo, anche perché non me lo immagino Parenzo che fa sesso, mi viene da ridere. No, a me viene da ridere a pensare al direttore che ha un amplesso, però per carità rimaniamo con i nostri dubbi, ma diciamo. Guarda, io ho la prova che gli amplessi ne ho avuti tantissimi. Beh, anch'io, e diciamo, però. Almeno tre e nessuno è di colore, caro direttore, quindi voglio dirti non c'è problema. Mi fa piacere. Sì. No, voglio dire il resto, quindi. Ma tra l'altro l'amplesso è anche una. Comunque, cosa ci fa a casa il direttore alle 19:54? Cosa ci fa a casa quando c'è un giornale da chiudere, notizie da capire, da costruire? Ma come fa a chiudere un giornale prima delle... Ma saranno cazzi suoi, ci sono. Ti faccio notare, caro Parenzo del Cazzo, che il mio è l'unico giornale italiano che è cresciuto negli ultimi mesi. Che non ha notizie. Fatti, perché non ha notizie. È un coglione, ma non come... sai neanche le notizie. Ma guarda, come fa un giornale a chiudere alle 19:50 col direttore che è già a casa? Permetti che posso avere uno, posso obiettare. Bravo, mentre tu sei un coglione. 19:50. Tu non potresti dirgliene neanche il Corrierino dei Piccoli. Chiude il giornale e lui arriva lì alle 7:30, si rompe i coglioni e chiude il giornale e va a casa. Chiamami coglione, pazzesca. Allora, io voglio dire una cosa, Vittorio. Nel rapporto sessuale, poi diciamo la verità, alla fine la donna che domina, cioè, diciamola tutta, diciamo. La parte dominante è sempre la donna quella che decide, o no? Ma io non me ne sono mai accorto, ho sempre deciso io quello che dovevo fare. Ah, hai sempre deciso tu, diciamo, sei sempre stato tu. Non è che per me il sesso è importante, anzi penso che la figa sia sopravvalutata. E perché questa cosa, la figa è sopravvalutata? Scusa, questo è interessante. Perché è sopravvalutata? È sopravvalutata, perché sì, va bene, d'accordo, c'è, la usiamo, non è che sia... decisiva per la vita di ciascuno di noi, ma abbiamo anche altre cose da fare. Sì, però il mondo, come sai, gira moltissimo intorno alla figa, intorno al sesso, cioè molto, gran parte. Sì, certo, sì, lo sappiamo, però perché si esagera, si sopravvaluta. È sopravvalutata, la figa è sopravvalutata. Questa è interessante. La figa è sopravvalutata, Senti, un'altra cosa assurda che mi viene in mente collegata alla questione del matrimonio è il fatto che adesso qualcuno vuole far sposare i preti. Giammai, che siano liberi di scopare, non di sposarsi. Cioè abbiamo il matrimonio. Sono d'accordo con te, perché un prete che si sposa va incontro a un sacco di grane, perché tutti, c'è un prete, ti sposi, dopo 3 anni ne tieni i coglioni, cominci a litigare, eccetera. Allora tu stai in canonica e arrivano gli strilli, le liti, eccetera. Poi magari hai anche dei figli, uno che si droga, uno che va in discoteca. Questo perché diventa un casino. Cioè, quindi per il prete sposato aumentano solo le grane, non i piaceri. Quindi io sono convinto che sia, è meglio lasciarli scopare il celibato. Ma poi certo scopi dopo chi vogliono. Distruggiamo pure la chiesa, dai, io vivo. Ma non distruggiamo la chiesa, che vuol dire? Una realtà, meglio che scopino piuttosto che sposarsi, che c'è la burocrazia, il matrimonio, le separazioni, eccetera. Il matrimonio è in regresso, dobbiamo far sposare i preti, che siano liberi di trombare, facciano il cazzo che vogliono, con una... Ma con... quello certo, ma è ovvio, sono uomini come noi, non è che sono diversi, quindi scopino, facciano quello che vogliono. Esatto. Però il matrimonio comporta dei problemi notevoli, che sono per esempio l'accordo con la coniuge, possono scoppiare le liti, poi la stanchezza, perché tu quando una donna la scoppi per 2 o 3 anni, 4, poi non ne puoi più. Poi non quindi ne puoi allora più, lì ci sono delle discussioni, cose terribili. Certo. Allora poi ci sono i figli che creano un sacco di problemi. Sì. Uno che si droga, l'altro che va in giro con motociclo e combina dei casini, insomma, per il prete aumentano casino, solo i problemi. Non c'è io preferisco che resti, preferisco, a me non me ne frega un cazzo, però sempre. Se fossi un prete sarei celibe. Sì. Senti, ma sì, inviteresti a casa tua a cena quel capo delle sardine, quel, ah, simpatico, quel Santuzzo, Santoro, quello. San Cazzo, io ma cosa come si chiama? Quello, sì. Lo inviteresti a cena a casa tua oppure è un personaggio che ti è totalmente indifferente, questo Santuzzo? No, mi è totalmente indifferente, ma poi voglio dire, io cosa vuoi, non amo le sardine, non amo le acciughe, non amo diciamo questi personaggi strani che non si capisce bene che cosa vogliono, non ci dicono a che cosa mirino, ma non me ne frega niente. Per cui meglio che ne so, che chiunque piuttosto che avere a cena Santuzzo, che ne so, magari adesso dico una cosa così, ma una porno, meglio avere una porno star a cena che avere Santuzzo, che ma avere questo Santuzzo. Ah, non c'è dubbio, no. Ma come non c'è dubbio? Non c'è dubbio. Poi io ho i miei gatti che stanno con me, meglio non so se non piacciono a Parenzo, ma meglio il tuo moltissimo gatto, sì. Meglio il tuo gatto. Stasera ho cenato col mio gatto sul tavolo, una meraviglia. Guarda, ma come sul tavolo? Ma ha già cenato poi alle 8, cosa mangia alle 8? Certo, perché io sono nato in Europa, non come te che sarai nato a Reggio Calabria. Ma noi in Europa mangiamo alle 20 alle 8 di sera. Col gatto sulla tavola, che pure antigenico. Ma lo mangia col gatto sulla tavola, che pure antigenico. Ma perché pare? Tu dici che mangiare. Ma, mangiare tardi è roba da terroni, dici tu, no? Sì, certo, sì, ma alla sera in Europa mangiamo verso le 19:30. Questa è civiltà. Questa è civiltà. Sì, ma la gente normale che lavora e che non dirige il giornale Libero non ha questi orari che alle 7:30 si mette a tavola col gatto sulla tovaglia. Perché peraltro siete degli sfigati della Madonna che non hanno neanche la possibilità di mangiare. Ma scusa, ma mangiare tardi. Ma mangiare ma mangiare tardi è una roba da incivili, mangiare tardi. Una roba da stracciona. Ma perché stracciona? Gente che deve lavorare, scusa, gente che lavora, un orario di lavoro. Ma tu sei solo tu che lavori alla sera tardi. Io lavoro tutti i direttori di giornale, tutti i direttori di giornale normali, risponderne a te che sei un po' rocciola. Io non riesco a capire. Tutti i direttori dei giornali importanti arrivano a casa alle 11:30, mezzanotte, perché stanno lì, costruiscono. Ma tu non sai come funzionano i giornali, ma tu a Reggio Calabria ci sei mai stato, a Reggio Calabria, Vittorio? Io sì, ci sono stato, mi sono anche trovato bene. Meno male. Ciao, abbracci, a presto, ciao. Ciao, abbracci a tutti. La Zanzara. Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. Giro a piè ma non è sopra il ciel che voglio un aeroplà. Bimba attacca, lascia pè. Roma è bella, dice il re. Culo sopra una lita, quando la manda mon frère. Ruben Sosa, non tengo i piedi per te. Cose nell'età, nella mia spra. Cucarraccia nelle scafrate, sembra tuari. E che cos'è? Sembra di stare a tuari. E che cos'è? Sembra di stare allo zoo. Sembra di stare a tuari. Signorina, ma perché le pare che noi abbiamo l'aria da teppisti? Per carità, mai detto una cosa simile. Ah no, e che le sembra che siamo, signora? Ma no, niente. Perché non scendete dalla macchina? Non siamo mica a tuari. È che siamo in ritardo, dobbiamo lavorare, stiamo già sforando. Ah sì, state un po' sforando. E che vi serve? Una storia tutto sangue da far venire il vomito per montarci uno scoop? Ma la volete smettere? Guarda che la pianta a casa nostra, puttana di una bianca di merda. Vattene a fa' culo tu. Calmatevi, ce ne andiamo. Che ti fini, guarda che stronzo. Non sei mica a tuari. Fammi una foto coi fra, fa la foto a tuari. Sembra di stare a tuari, sembra di stare allo zoo. Sembra di stare a tuari, sembra di stare a tuari. E che cos'è? Sembra di stare a tuari. E che cos'è? Sembra di stare allo zoo. Sembra di stare a tuari, sembra di stare a tuari. Ma andate a cagare, va, giornalisti di merda, va. Siete delle merde, basta, fanno bene togliervi i soldi. Todo cambia! In materia di distinzione tra asciugamani per la faccia e asciugamani per il culo, io vorrei tanto asserire che quando vado a casa d'altri non mi faccio il bidet e non cago neanche a casa d'altri. Quando sono a casa mia cago, mi faccio il bidet che il mio culo spesso è molto più pulito della mia faccia, quindi non distingo gli asciugamani. Ragazzi, io sono un tossico della Madonna, sono uno di quelli che si fa 10 canne al giorno, non me ne frega un cazzo di tutte le questioni lì che ponete, pregiudizi, non pregiudizi, cervello bruciato, non me ne frega un cazzo. Quello che oggi mi ha scioccato è che sono andato al tabaccaio a prendere le cartine e ho scoperto che sono raddoppiate, costavano 1 euro, costano 2 euro. Cioè, governo ladro, non ci si può neanche più drogare. Ladri! Tutta un coglionella. Allora, ho dimenticato di far sentire a Feltri questa cosa fondamentale. Che l'abbiamo già. Ne abbiamo già a dormire, figurati. Ne abbiamo mangiato già le 7. L'ha già letto, ha lavorato tutto il giorno. Perché io non ho capito perché ti sta su coglioni il fatto che una persona vada a dormire presto o finisca presto di lavorare. Fai il direttore di un giornale, che sono il direttore Fontana, il direttore Verdelli, secondo te va alle 8 a mangiare. Ma quelli chiudono dopo, che c'entra? Infatti fanno le notizie. Bravo, differenza fondamentale. E infatti quei giornali hanno le notizie. Quello si sveglia la mattina alle 9, alle 10, può fare niente, fa la colazione, ascolta la radio, legge i giornali, fuma delle sigarette, va al lavoro verso le 11, dice: allora come è successo qua? Allora facciamo il titolo sui negri, vaffanculo negri, mettiamo. Ma dice: ma direttore, proprio così, va bene, ci riaggiorniamo alla riunione delle 3. Va a pranzo, riposino, ritorna. Ci sono novità in redazione, direttore, allora ci abbiamo questo. Ma no, confermerei, sono negri, la notte pericoloso girare per strada se uno è negro, io farei questo. E alle 7 se ne torna a casa. Questa è la giornata tipica, questa è la cosa, questo è, perché alle 7:30 aveva già mangiato, alle 8:09 si era già a dormire, figurati. Incredibile. Allora, adesso può accadere qualunque cosa, ma lui tanto me la frega niente, ma io... Ma non me ne frega niente. Guarda, fa notizie che continuano ad arrivare, ad esempio, niente, non frega niente, nulla. Notizie non è che si ferma notizie. No, il giornale chiude alle 7. Allora, un testimone al processo, che non so, Rubi Ter, Quater, Quinquer, queste puttanate di processi a Berlusconi, e con la frase fondamentale: nella stanza buia cavalcavano il presidente. Beh, ragazzi, che numero uno. Ma che senso cavalcavano? Cavalcavano. A cavalcioni, come faccio io con i bambini? No, cavalcare in un altro modo, amico mio. Cioè, la donna quando cavalcioni, cavalca l'uomo, il maschio, di solito eccitato, dunque con il pisello eretto, quando ce l'ha eretto. La donna che cavalca, capisci? Te lo devo spiegare ancora? Non credo, ci sia bisogno, no? E ridendo mi spiegava cosa faceva. Lei mi dice, non so, mi diceva che c'era una stanza buia perché lui vuole stare al buio, forse per non farsi vedere, mi diceva lei, per l'aspetto fisico, eccetera. Beh. E a turno cavalcavano il presidente, detto in modo molto più volgare, ridendo, però questo è l'assunto di quello che ci siamo detti. Era un colloquio tra Soprani, che è un test del processo, e la signora Barbara Guerra, ex Olgettina, te la ricordi? Si chiama Barbara Guerra. Io come dimenticarla? Certo. Vuole stare al buio, forse per non farsi vedere, questo secondo un racconto de relà. Però ragazzi, è meravigliosa questa cosa qua. A turno lo cavalcavano, e io non credo che avvenisse proprio così, perché la forza, non c'era la forza del Berlusca di cavalcarne più a sera, non credo. Lo cavalcavano, sì. Sì, lo cavalcavano. C'è la corte che vuole sapere dei dettagli. Non lo so, chiedilo al Chiesa Soprani, chiedilo alla guerra. Siamo a corrobore pure la corte, perché è Francesca finita. Da Roma, dai, quello è già corrotto. Francesca. Pronto? Dimmi Francesca, dimmi. Sì, guarda, lo so che può sembrare off topic rispetto a quello di cui state parlando adesso, però in realtà volevo parlare della figa pelosa. Allora, volevo dire una cosa a proposito della figa pelosa. Pensa come si è evoluta la società oggi, cara Francesca e caro Parenzo. Nel 1970, parlo di anni 70, le donne tenevano i peli sulla figa. Questo non c'è dubbio, no? Cioè, negli anni 70 c'era la maggior parte delle donne. Sì, ma pure adesso. Sì, aspetta, adesso ci arrivo. Mi vuoi dire che tu evidentemente hai tanti peli sulla figa, o sbaglio, Francesca? Esatto. Adesso mi spiegherai perché. Però negli anni 70 le donne tenevano i peli sulla figa. Su questo non c'è dubbio. Negli anni 80 i peli sono diminuiti. man mano cioè, si cominciava a avere il praticello, diciamo, mm-hmm, all'inglese. Negli anni 90 il taglio alla brasiliana andava di moda. Negli anni 2000 poi è scoppiata la roba della rasatura totale. Mm-hmm. Al contrario, l'uomo, l'uomo prima non aveva la barba. Cioè, a un certo punto, negli anni 70, uno si radeva sempre. Cioè, non c'erano gli uomini barbuti, c'erano quelli che tenevano la barba fissa, però non per moda. Poi a un certo punto è scoppiata la moda del pizzetto e adesso è esattamente il contrario delle donne, vanno di moda gli uomini con la barbone, capito? Cioè gli uomini col barbone e le donne senza nulla, il famoso petto di pollo. Questa Francesca, novità, invece... questa è una grossa novità. No, no, non è una grossa novità, è una cazzata che però è vera. Francesca, dimmi allora, tu invece... No. Allora, io non pratico il petto di pollo perché è naturale, nonché esteticamente poco piacente. E non lo so, ho chiamato per dire che in realtà è un mito del porno questa roba qua. Cioè quella della tu invece sei hairy. Sì, totally hairy. No, sei hairy pussy, significa una figa particolarmente pelosa. Ma in che modo? Cioè normale oppure notevolmente pelosa? Come la natura te la dà. Cioè senza mai toccarla? Senza mai toccarla? No. Straborda, straborda dalle mutandine evidentemente. Ma io le mutandine ne porto poco, però ok. No, sì. Pure quello. D'accordo. Dunque, straborda fuori dell'inguine, diciamo, tocca l'inguine, sì, assolutamente. Sì, esatto. Tutto di che colore? Nero? Di che colore? Nero. Ma per caso nero. Anche sotto le ascelle? Esatto. Pure sotto le ascelle? Perché la natura ci ha fatto così, ci sarà un motivo funzionale. Capito, ma siamo così. Per te c'è un problema di altro tipo oppure una tua scelta estetica? Beh, in realtà la motivazione prettamente è nata pratica e è diventata politica, perché... Depilarsi fa male alla pelle a livello proprio epidermico, no? Cioè, sì. Depilazione, cose di questo genere qua, quello sì. Che il motivo per cui io mi metto dopo barba è perché fa male, no? Sì, sì. E poi politico, perché cioè io non capisco per quale ragione devo avvertire uno quando ci vado a letto che ehi guarda, comunque io ho i peli che mi ha dato madre natura, quando lui non è che mi dice ehi guarda, io non sono così freddi, ciao. No, questo posso capirlo, questo è il motivo politico interessante, cioè tu stai dicendo che uno oggi quasi bisogna avvertire se uno ha i peli molto folti per non far spaventare mamma l'uomo. Mamma mia. Però, No, Parento, che te mamma mia, cioè nel senso... È così, ma no, dico mamma mia, ma boh, dico mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia. È un tema reale. È un tema super reale, perché tu esci con un tizio, ti piace così, ti mette le mani nelle mutande e ti guarda come a dire, ehi, che succede? E tu tipo, sì, è la natura. Ma perché questo ti succede questo? Scusa Francesca, ti succede questo a te? Cioè di uscire con delle persone che ti mettono la mano, diciamo, dentro la figa, diciamo, o comunque sopra, e non incontrano, mamma, diciamo, mamma, la pelle, non vedo la pelle, ma... gente che esatto, chiama e pure. Ti guardano come se uno avesse sentito un pisello, ma non è un pisello, cioè, è la normalità delle cose. Non ho capito, gradiscono o no? Sì, sì, sì. Cioè, guarda, in percentuale. Dopo il primo momento sgomento, sì, gradiscono e come. Gradiscono perché mantiene di più gli odori, è molto più naturale, è molto più esteticamente. Sei fidanzata bello. Tu? Sì. Il tuo fidanzato ovviamente gradisce, altrimenti saremo a voglia. Ma saremo se non gradisse, cambierei fidanzato. Magari cambierebbe lui, però. Cioè, sarà felice che hai chiamato in diretta, sarà felice probabilmente. Hairy pussy, però sarebbe curioso, cioè veramente straborda fuori, cioè nel senso tocca linguine oltre, cioè se tu mi pare che hai già investigato abbastanza, no? Mi pare, no? Col costume. Uno di questi pantaloncini super super corti che vanno di moda, tipo mutande, si vedono, certo. Cioè col costume si vedrebbe? Si vedono, certo. E a te non te ne frega un cazzo che si vedono? No. E le ascelle? La gente non ti dice che cazzo, cioè che ne so, amiche tue, eccetera, la gente non dice che, cioè che perché non ti tagli i peli delle ascelle? No, cioè la gente fa oh wow che coraggio, cioè che coraggio, dice la gente, non ah wow che schifo. Cosa ti piace dei peli sotto le ascelle? Che mantengono il tuo odore e l'estro è una delle basi dell'attrazione sessuale. Ma per carità. Vostro onore, ma no, ma dico, ma per vostro carità, onore, ma no, per carità, l'odore, il profumo, che fai a tutti, Parento, il profumo, non l'odore, il profumo. Fai la domanda che fai a tutti, fai la domanda che fai a tutti, Parento, fai la domanda che fai a tutti. No, fai la domanda che sono terrorizzato dalla risposta. Fai la domanda, se non la faccio io, sono terrorizzato dalla risposta. Allora lo faccio io. Alle ultime elezioni, lei, Francesca da Roma, che cosa ha votato? Guarda, io non voto, ma sono comunista. Fermi tutti, non ho altre domande. Fermi, arrivederci. Grazie. La Zanzara. 12:30 Istanbul, siamo al toppissimo. Zanzara, vi devo dire una cosa, mi siete mancati come l'aria, vi giuro su mia madre, mi siete mancati come l'aria, raga. Bau. Sono pronte per essere munte. Sono pronte per essere munte. Stanno qua. Oh Beppe, ho appena finito di vedere Faccetta Nera del grande maestro Salieri e devo dire che oltre ad essere un film bellissimo, degno di lui, mi hanno affascinato tantissimo le scene del sesso ascellare. Bellissimo, appena trovo una da scopare ci devo provare, siamo al top. Io ho una perversione per cui non riesco a segarmi guardando porno professionali, cioè mai fatto una sega guardando Rocco Siffredi o Valentina Nappi, cioè non mi eccito per niente, invece esco pazzo per gli amatoriali e i signori Mori, Danica e Steve Mori erano il top degli amatoriali perché erano sì comunque organizzati ma sempre amatoriali. Con queste ultime però ospitate da voi, da Savino, mi avete rovinato anche questa coppia, cioè io adesso mentalmente classifico Danica Mori come prof, cioè professionista, non più come amateur, quindi non mi eccito più, ecco, mi avete rovinato anche le seghe guardando Danica Mori, siete dei criminali. Ciao Parenzo, shalom. Amico mio, che ti devo fare? Cioè, non è che intervistare una persona poi ti porta a non avere più il mito di quella persona. Cioè, questi no. Ti assicuro, vai su Pornhub, guarda i film e rivedi per l'ennesima volta dei filmati e ti riappassioni di nuovo. Io non mi sono mai appassionato di nessun personaggio di Pornhub. Devo dire che questi due signori un po' mi hanno fatto traballare. Beh, certo, io non guardo lo streaming della 7, guardo Pornhub, amico mio. Cioè, non guardo lo streaming della 7, guardo Pornhub. Però io svolterei, cambierei pagina, una cosa che ti interesserà, caro Davide. Sì. No, cioè, passiamo dalla coppia Mori, dalla coppia sì. di porno alla attori questione Mori. Del referendum della no, Lega che è stato bocciato alla dalla vicenda consulta. Di Brandi, no. alla vicenda alla di Brandi. Beh, allora, che cosa è successo? Vicenda parapolitica, no, importantissima, esponente di Italia Viva e lo sottolineo, il nostro amico Li Brandi, grande amico teoricamente delle forze dell'ordine. E che cosa fa? Subisce a luglio una visita da parte della Guardia di Finanza e sbrocca. Avrebbe detto Terroni, leghista di merda uno, eccetera, eccetera. Voi non sapete chi sono io, ma cose di questo tipo. Adesso sto riassumendo. Avrebbe insultato pesantemente, secondo il racconto degli stessi finanzieri, quelli che gli facevano un'ispezione. Io lo chiamerei. Pronto? Gianfra. Poi, ciao. Ma uno come te fa ste cose, che è successo? Eh? Niente è successo, assolutamente niente. Ma scusa, nel rapporto della Guardia di Finanza hanno detto cazzate i finanzieri, oppure hai sbagliato tu, delle due l'una, non è che c'è terzium non dato. Può capitare, cioè può io capitare. Sai che ti stimo, alla fine possiamo avere idee diverse. Ma tu hai letto bene quello che c'è scritto? C'è scritto che quelli sono dei rapportini interni che hanno fatto loro. Il verbale che io che ho citato, soprattutto dal Fatto Quotidiano, racconta sì. tutta un'altra vicenda. Però voglio capire, quelle parole lì sì. sono un intoccabile, voi siete morti, chiamo il prefetto, no, leghista di merda. Allora, io non le ho mai dette perché c'erano presenti i miei dipendenti, io non ho mai detto, io posso dire invece le parole che ha detto lui, che sono veramente che ha detto? Inqualificabili. No, non posso dire, lo scrivo. Cioè, adesso andiamo in causa, no, capisci? Cioè, tu vuoi portare in causa questo generale? No, non voglio portarlo in causa, voglio chiarire. Questo maggiore. Voglio chiarire. Lui ha scritto queste cose, io non le ho dette queste cose. Secondo cioè, te, tu non hai mai detto io lavoro io, come voi, non fate un cazzo dalla mattina alla sera, pago le tasse, anche il vostro stipendio? No, nulla. Mai. Nulla. figuriamoci. Cioè il maggiore Pirrazzo là sarà un leghista di merda, mai detto. Ma secondo te io dico leghista di merda? Io non lo so, sembrava strano, ma quindi è un complotto. Spiegaci un secondo, cioè, perché no, cioè questo qui è un ragazzo un po' esuberante e la discussione civile che abbiamo fatto un po' agitata, perché lui è venuto con 9 persone nella mia azienda, io ero in commissione finanze, mi hanno tirato fuori, io gli ho detto per favore torni venerdì, no? E invece lui non voleva farlo, allora sai, ci siamo un po' agitati, no? Così lui l'ha interpretata così, ha scritto queste cose qua, no? Capito, però una cosa è interpretare una tua reazione, una cosa è inventarsi delle frasi. Erano presenti, ma tu leggi quello che abbiamo fatto con presenti i miei dipendenti di quello che è successo veramente. No, ma io ho letto il 24 luglio cose. I militari irrompevano in azienda in 9 come all'assalto, creando il panico generale, al punto che gli stessi militari si compiacevano dello stato di agitazione e timore, dicendosi tra loro li abbiamo militarizzati, entravano senza titolo eccetera eccetera, impaurivano i dipendenti, secondo te violando l'articolo 68 della Costituzione. Fin qui ci può anche stare, ma è vero questa cosa qua? Cioè sono entrati minacciosamente nella tua azienda a fare delle verifiche? Io ho scritto, i miei dipendenti hanno fatto questa dichiarazione. La cosa che tu mi stai dicendo è molto chiara, cioè le frasi che abbiamo letto di tue reazioni. Pura fantasia, assolutamente. Allora, però un'ultima cosa ti chiedo, tu sei uno di quelli che di solito dice, quando qualcuno spara dentro casa eccetera, beh, la prima cosa da fare è quella di chiamare le forze dell'ordine, perché sparate, perché fate. Beh, adesso scusa, questi qua sono arrivati dentro la tua azienda a fare un controllo, cosa che succede a tanti imprenditori italiani, e tutti ribelli contro questi qua perché fanno un controllo nella tua azienda. Sai che oggi quante telefonate ho ricevuto? Quante? 58 di industriali italiani che mi dicono che finalmente c'è stato qualcuno che ha avuto il coraggio di reagire, perché il verbale che io ho scritto dice delle cose molto serie. Cioè i poveri imprenditori vengono aggrediti, hai capito? Gli imprenditori italiani vengono aggrediti dai finanzieri, secondo te? Ma non lo so, vedi tu, chiedi, prendi il telefono, ti do io 58 numeri, tipo Bombassei, tipo tutti quanti, li chiami e dici, senta, ma quando viene la Guardia di Finanza, o soprattutto quelli piccoli, gli imprenditori piccoli, quelli poverini che dovresti difendere, capito? Ma guarda che io non ho problemi. Con la tua radio devi fare servizio, non dire che io ho detto così dei finanzieri, dovresti cercare di capire che io stavo difendendo la mia azienda, che cazzo me ne frega del resto. Scusa, però cioè, un controllo è un controllo, uno capito, potrebbe... Certo, un deputato della Repubblica però anche, sei un rappresentante del popolo, scusami. Certo, ma certo, e lui mi tratta come tale, e io lo tratto come tale, infatti. E quindi noi... devi dare l'esempio e dire prego, venite, guardate certo, quello che volete, prego. Beh, invece tu infatti parli di aggressione, parli di aggressione dei finanzieri. Ascolta, dai, veramente, va. No, ma certo, tu parli di aggressione, sei tu che hai parlato di aggressione, sì, mica sì. Io non ti stavo accusando di nulla, tratto, ti ho chiesto se quelle frasi erano vere o no, tu mi hai detto no. No, non sono per niente benissimo, vere, benissimo. Le quelle vere sono quelle altre. Benissimo, d'accordo. Un valore. Poi no. E poi dopo, voi, stasera, quando i ladri vanno Gianfranco a casa, i carabinieri per te sono dei coglioni che non intervengono, invece adesso stasera devi difendere l'indifendibile. Ma io non sto difendendo nulla, che cosa io è indifendibile? Io difendo sempre le forze dell'ordine. Ma stai dicendo che ti hanno aggredito questi qua? Ma magari è stato un caso che c'era tu stai dicendo un'altra cosa, che gli imprenditori italiani sono perseguitati e sono vessati. Gli imprenditori italiani non sono mica delinquenti, capito? Sono delle persone serie che sputano sangue e pagano le tasse. Invece ti hanno trattato come un delinquente questi qua. No, allora, io con la Guardia di Finanza, se non ci credi, chiedilo a loro, c'ho un rapporto fantastico. Ho capito, con questi no però, con questi no. Ma no, ma è stato magari un caso, no? C'è una cosa così. Il caso è stato che questa cosa non doveva uscire, invece qualche giornalista... Ma questi, il problema dei giornalisti fanno il loro mestiere, un altro discorso. Ah, questo fanno il mestiere del giornalista. Ma il loro mestiere è avere notizie che gli altri non hanno, che cosa vuoi dire? Certo, cioè, che i rapporti, poi allora, se vuoi fare la causa all'Espresso perché ha ottenuto un rapporto dalla Guardia di Finanza, fai la causa all'Espresso. Ma il punto non è quello che è uscito. Ma dici tutto te, io non voglio fare, io ho detto che voglio fare causa. No, ma io non un po' faccio causa a te che mi metti in bocca delle però cose. Però scusami Gianfranco, io capisco che sei nervoso. Capisco che sei nervoso. Fare la radio, dire cose come stanno, ma ti ho lasciato parlare. Difendere i posti di lavoro, qui è venuto salta fuori una cosa particolare, no? Se vuoi difendere, chiedi, ti informi, chiami gli posti di lavoro, in che senso? Chiami i negozianti, chiami le persone. Dunque, mi stai dicendo che c'è un sacco di gente in Italia, cosa peraltro vera che io penso, che è martirizzata dai finanzieri che li perseguitano, giusto? No, ti ho detto che in certi casi può capitare che gli imprenditori vengono trattati in un modo non a pesci adeguato, in faccia, no? A pesci in faccia, hai capito, Giuseppe? Ciao Gianfranco, ciao. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. Quindi, ieri ho preso un maglione, tre camicie, due paia di jeans e una giacca. Niente male per una giornata di saldi, eh? Ma vai, ho preso New York. Pensa in grande con i saldi Air Italy. Prenota entro il 20 gennaio e vola con sconti fino al 25% a New York, Miami, Toronto, Maldive, Los Angeles e tante altre destinazioni. Info e condizioni su airitaly.com. Air Italy. Imagine the world differently. Non so, dici che mi stava meglio Miami? Il climatizzatore in inverno? È il momento giusto. Perché? Fino al 13 febbraio da 1 euro con il Samsung Wind Free Monosplit, l'unico che rinfresca senza getti d'aria diretti, a 799 euro, ci portiamo a casa in più l'asciugatrice Bosch. Tutti e due insieme a 799 euro? Sì, e con il tasso zero pagheremo da giugno. Tanetag 0%, 20 rate, salva approvazione della finanziaria. 1 euro. Batte. Forte. Sempre. Avete appena sentito un'esclamazione di stupore di alcuni sherpa peruviani di fronte a una smart elettrica. Psst, e basta ridere. In effetti, che ci faceva sulla cima di una montagna? La cosa più bella da fare con una smart elettrica è guidarla in città. Nuova Smart Q42 All Electric Now, 100% elettrica, 100% per la città. Guidala subito con My Mobility Pass, il noleggio Mercedes-Benz tutto incluso, con zero anticipo e wallbox. Datti una scossa su smart.com. Smart. Lo sapevi? Gli ebrei riescono a leggersi nella mente. È considerato uno dei migliori film dell'anno. Ma come fai a riconoscerne uno? Potrebbero sembrare come noi. Candidato a 6 premi BAFTA. Non sei un nazista, sei un bambino di 10 anni a cui piace indossare una buffa uniforme e che vuole fare parte di un gruppo. Jojo Rabbit, dal 16 gennaio al cinema. La zanzara. Qual è il primo suono che sei tornato a sentire grazie ad Amplifon? Siamo tra i primi, sicurezza, siamo tra i primi, lavoro, abbiamo la miglior disoccupazione che ci sia in Italia, cosa vuole di più? Lei è un insultatore, si vergogni! Crucià, chiedila ad Alex Magni, la novantenne, te la trova subito, subito. Cruciani, anche se ho solo 38 anni e non sono per niente sdentata, voglio propormi io per l'esperienza con Rocco, ma quel Felicitas, mamma quanto è brutto, viva Rocco, viva la zanzara. Sono in macchina e ascolto il podcast della zanzara di Rocco Siffredi e penso al titolo, La vecchia e il cazzone. Che ne dite? Zanzarosi, può andare bene? Ragazzi, tiriamo fuori i rosari, forza! E intanto Bruno da Milano, vai Bruno. Volevo dire una cosa sulla vicenda, adesso vengo da te Bruno, sulla vicenda Siffredi Max Felicitas, no, che ha caratterizzato questa settimana zanzaresca. Sì, sì, sì. La realtà è questa, che nel mondo di Rocco, che in parte è anche quello di Max Felicitas, se resisti come ha fatto Rocco per tutti questi anni significa che hai vinto, altrimenti crolli. Vedremo se Max Felicitas resisterà. Sicuramente Rocco ha vinto, tra l'altro ha vinto anche un premio come miglior regista a Las Vegas, alla specie di Oscar dei porno. In ogni caso, credo che uno degli argomenti utilizzati da Felicitas, sei vecchio, vecchio, pieno di Viagra, sì, ritirati, vai in pensione, sono argomenti che non hanno nessun senso. Cioè, io l'ho detto pure a Max Felicitas, scusa, ma che c'entra che uno Max è vecchio? Felicitas. Che c'entra che uno è pieno di Viagra? Stiamo, stiamo facendo la VAR alle, certo, alla assolutamente. VAR, a quell'obbrobrio, a quel match dell'altro epico, giorno, la VAR. Match epico. Che cosa c'è? La corte, dimmi, vai. Invita l'amichetto tuo lì davanti, si sceglie la donna, da te in radio, voglio vedere se hai coglioni, si sceglie la donna, a me mi metti una vecchia di 90 anni senza denti con la dentiera, e me la inculo e mi inculo pure lui, me lo inculo insieme alla vecchietta, poi, ma fai schifo, perché uno dovrebbe dire fai schifo, ma che vuol dire fai schifo? Ma perché è una cosa agghiacciante, una sfida agghiacciante, una roba. Però seriamente, sulle tasse, per esempio, che Max Felicita aveva detto qui che Rocco dovrebbe pagare le tasse in Italia. Vabbè, ma che cazzo c'è? Se quello c'è l'azienda in Ungheria, se lavori in Ungheria, sì, pagherai in Ungheria le tasse. Vile attacco, ma cosa vuol dire? Cioè, non vuol dire nulla pagare le tasse in Italia. Quello lavora in Ungheria. È come se tu dici: sei italiano, però c'hai un'azienda, che ne so, in Olanda, e dici, però devi pagare le tasse in Italia. Ma quello stai in Ungheria a lavorare. Che, perché dovrebbe pagare le tasse in Italia? Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ah, Bruno, allora, che mi volevi dire, Bruno? Allora, all'inizio parlavi della... di quella, come si chiamava, lì, Marina la Rosa, la pioggia dorata, eccetera. E l'altra che non se lo faceva fare o non l'ha fatto. Io invece ho fatto con mia moglie l'inverso. Cioè? Non ho capito. Cioè, dentro la passerotta... No, calma. Stiamo arrivando a degli eccessi. Stiamo arrivando a degli eccessi. Ma qui non è quel cagacazzo di prete. Ma non è questione di prete. Ma non è questione di prete. È una cosa schifosa. Calma. Schifosa. Sì, però, non scusami, far passare Bruno. Per normale porcheria di questo miserabile di Bruno, lo schifoso. Non può diventare normale questa cosa. Ti prego. Alza tu una barriera all'orrore, allo schifo, alla volgarità, alzala anche tu, aiutami, ti chiedo una mano, non è possibile, devo rimanere... Ma fai tacere, che è meglio, Cruciani, togli il microfono. Però scusami Bruno, voglio capire da te una cosa, cioè tu stai dicendo che praticamente hai praticato... Prova a pisciare dentro la pasta. Ma non lo voglio fare! Ma è una cosa incredibile! Ma non lo vuole fare! Ma andare a fanculo con lo ricatto che ma non lo vuole fare! Ma se non lo vuole fare, non lo vuole fare, scusami, mamma sarà mica mia, normale adesso, per carità. Meno male. Adesso guarda, questo anch'io no, questo è troppo. La mia amica che ha scritto prima sembra l'amica dice, tua, sì. Questo forse è troppo. Questo lei... anche lei, questo anche l'amica Eugenio, questo forse no. È tra l'altro anche pericoloso, cioè mi suggerisce per esempio Gottardo. Mi dice forse è anche pericoloso, caro Bruno, o no? E dai. No, proprio niente. Che pericoloso è che sia. Ma dai, su, ma ragazzi. Ma questo è uno schifo assoluto. Ciao Bruno, ciao. Ma che ciao? Ma fatti ricoverare. No, è normale. Normale non è. Simone da Padova, vai, Simone. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Sì, io volevo intervenire sul discorso iniziale di Amadeus, che mi sembra una polemica proprio del cazzo, nel senso che non nascondiamoci di fronte al fatto che lo show business e la TV commerciale, se vogliamo, gira da che mondo è mondo intorno alla figa. Quindi le stesse donne poi che si lamentano adesso e puntano il dito su a proposito di questa faccenda, dovrebbero comunque riconoscere che la stragrande maggioranza, l'80% penso almeno, delle ragazze dai 20 ai 40 puntano tutto sul fattore estetico. Non è che tutti puntano sul fattore estetico, cioè chi punta sul fattore estetico, ma io non condanno queste persone qua nella maniera più assoluta. Una donna che punta sul fattore estetico, cioè sul proprio corpo, anche dal punto di vista, anche sfruttando il proprio corpo, è una mia grande battaglia culturale da tanti anni. Cioè, una donna può utilizzare tranquillamente una parte del suo corpo per fare carriera. E non ci vedo nulla di male. Dunque, sul palco di Sanremo, a meno che tu non sia un artista o abbia una cosa particolare da dire, è evidente che vengono scelte le donne anche in base a questo fattore. Non mi sembra una cosa così drammatica il fatto che Amadeus abbia detto in tutta la conferenza stampa: bellissima, bellissima ragazza, può essere stato povero di parole, scarno di parole, ma non è quello che gli si chiede. Gli si chiede di condurre il festival, esatto, che dopo 5 giorni per fortuna ce ne libereremo. Quest'anno abbiamo iniziato un po' prima, devo dire che le polemiche sono iniziate forse 20 tutto... giorni prima. Sperare o no, ma siccome ha costruito tutto apposta, può a questo essere, punto può essere, può per essere. Quanto riguarda le sardine, io vorrei dire un'altra cosa. Ma dire sulle sardine? Non possono andare a lavorare, dico io, apritemi una partita IVA, contribuite al PIL. Ma magari c'è gente, scusa, però scusami, anche questa qua, posso dirti che le sardine, magari ci sono delle partite IVA che sono anche sardine, cioè, che cazzo ne sai, cioè, c'è gente che c'ha la partita IVA che sta in piazza e parteggia per le sardine, manifesta con le sardine. Parlo del protagonista del ma quello là, magari quello invece è una partita IVA, che ne sai, quella è una partita IVA e lavora, non so a quale fondazione, ma non lo so, guarda, io non lo voglio nemmeno nominare Santuzzo, perché dice delle cazzate talmente enormi, che secondo me delle cose talmente banali più che altro. Ciao Simone, ciao. Allora, caro Parenzo, sai che forse tu sei informato. Italiani! No, voglia te. Allora, che succede? A Gorizia, domani a Gorizia, quelli della decima MAS. No, Gorizia, domani signori, vado a Pescara a presentare il mio libro. Sì, lo so, i signori della decima MAS. Decima MAS vogliono fare una manifestazione per ricordare i loro morti. I signori della decima MAS. A che ora? Dammi altre indicazioni, per favore. So. A che ora? Valla a guardare, non so se è stata confermata. A Gorizia, i signori domani della decima MAS. A Gorizia, a che ora? Non lo so a che ora, caro Davide, a che ora. Quelli dell'Ampi si incazzano. Quelli dell'Ampi si sono incazzati. Benissimo, ovviamente. Ma io chiamerei la forza pubblica. Ma che forza pubblica? Comunque, abbiamo intercettato una telefonata di un signore incazzato, un fascista incazzato, dice: perché volete vietarci una manifestazione? Pronti? Sì, Ampi Gorizia? Sì. Io mi chiamo Italo Destro, sono della decima MAS. Ah, bravo. Sì, bravissimo. Senta, ma anche stavolta non ci lasciate commemorare i nostri commilitoni morti, i nostri caduti. Ma no, ascolta, l'Italia ha conquistato Trieste, che non è mai stata italiana. Trieste non è italiana, è italianissima. Non puoi travisare la storia. Ma chi travisa la storia? La stessa cosa posso dirla io. Travisate voi. Vedo delle cose assurde. Vedo delle cose veramente vergognose. Piacere, ascolta. Che sentiamo? Ascolta. La storia. Ma io l'ho capita, siete voi che non la capite. Ascolta. Ci sono libri, abbiamo fatto. Sì, sì, ce ne sono, ma molti libri sono deformati. Deformati. Rompe i coglioni senza sapere. Io rompo i coglioni, voi li rompete, voi rompete i coglioni. Perché non ci permettete. Sì, sì, è vero, sono qua. Coerente. E ascolta, sono coerentissimo, ma non hai risposto alla mia domanda. Parliamo in due o parliamo uno alla volta? Io chiedo soltanto di lasciarci commemorare in pace i nostri caduti. Ma non lo fai in un luogo pubblico, perché la decima MAS da noi ha ammazzato. Quanti ne avete ammazzati voi? Io rispetto i morti, non è questo il punto. Non hai risposto. Hai messo l'orecchia in collegamento col cervello? No, io l'ho messo molto bene, però ma ripeto, soltanto i vili non permettono di commemorare i propri caduti. Invece le rompo, perché dovreste vergognarvi. Che non mi hai nemmeno chiesto vergogna se potevo cosa? Ma se il cellulare è scritto in internet, io posso fino adesso senza chiedermi il permesso. Tu pubblichi il tuo numero di telefono in internet e io devo chiederti permesso? Noi siamo gente di confine. Io sono anche gente di confine, sono a Milano per lavoro. Un piccolo milanese il cazzo che io sono un piccolo milanese del cazzo. Esiste la provincia di Gorizia. Io devo andare in Slovenia, sono sul confine. Quindi se vai in Slovenia sai sicuramente lo sloveno, che io non dovrei sapere perché sono un milanese del cazzo. Govori slovenščino, jaz sem Slovencem, sarò di Utrstu. Kaj pa ti? Della voce. La verità è che non hai capito un cazzo e vai in Slovenia soltanto perché ci sono i bordelli. Ma questo me lo devi dire. Sì, sì, lo dico. E come se non lo dico? Adesso io vado a fare il pieno di benzina. Bravo, fai il pieno di benzina. E a mangiare una buona Lubianska. Vai a mangiarti la Lubianska. Però per la commemorazione non rompeteci i coglioni. There's not a tragedy so bad it keeps Mamma mia, allucina. A parte, ti posso, traditori al servizio della Germania. Ti posso dire una cosa? Ti posso dire che questo Germania. Signore dell'Ampi mi sembrava un po' alterato. Non hai avuto la stessa impressione? Un coglione, quell'Italo Balbo, che roba, come si chiama? Italo destro. Italo destro, scusami. Italo destro. Andrea da Milano, vai Andrea, vai. Vai, italiani! No, aspetta, finita, è via, aspetta. Finita la settimana! Vaffanculo! Ciao, aspetta, politicamente Andrea, corretto! Andrea vado da Milano, via. Aspetta! È finita! Dimmi, Andrea, dimmi! Oddio, dimmi. È finita, allora, sono scaduto sulla sedia! Velocemente, l'Amadeus ha detto... Ma certo che non è niente di male, però appunto la fi... Amico mio, non si sente niente, a cazzo! Ciao, italiani! Su, Andrea! Ciao, via! Dammi via, soddisfazione! E dai, Andrea! Dai, ti il direttore ha già mangiato da due ore, il direttore! Andrea! Andrea, portacci tua! Italiani! Italiani! Arrivederci e come sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fotterceli di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà! È normale, perché non è un cavallo, un pomo piccolo piccolo è.